la zanzara di Giuseppe Cruciani, che non è una persona intelligente, ormai il numero di parolacce fa sì, non le sente neanche più. Se Giuseppe un giorno dicesse la parola tenerezza, rimarrebbero tutti a bocca aperta, perché al 50° stronzo, va in culo, cioè, passa, esce, entra un orecchio, esce dall'altro. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Siete proprio stronzi, guarda, proprio ve lo devo dire in faccia. In previsione della sciagura che si sta per abbattere su di noi, io i podcast della zanzara li sto usando come un tossico userebbe le dosi che gli restano, le sto razionando. Invece di farmi una dose intera al giorno, me ne sto facendo mezza al giorno, prima che voi miserabili andrete in vacanza, bastardi. Per me il tempo sta rallentando, la notizia del giorno di oggi è lo striscione "Viva la fica" esposto al Gay Pride. Il primo che mi fa uno spoiler sull'attualità, ci metto le mani in faccia. Una cosa che ho capito ascoltandovi è che se faccio tutto il rovescio di quello che dice Parenzo, la mia vita sarà semplicemente fantastica. Grande Macron! Ancora riesci ad andare con tua moglie? Io, certo. Io tutte le volte che la vedo, come la tocco, a me mi viene il cazzo duro. Senti, Cruciani, volevo dirti, io faccio parte, sono un camionista, però stranamente faccio parte della parenziana maggioranza silenziosa. Io vi posso dire, qualunque cosa volete sapere di ciò che viene per strada per colpa di questi qua, cioè, allora, tu entri in un ufficio, datti un tono, cioè, io pure faccio il camionista, però metto una polo pulita, vado con le scarpe, la maggior parte di questi va con gli zoccoli, pisciano e cagano dove mangiano, entrano che puzzano, i camionisti in generale, dai, su 10, guarda, su 10, 8 sono così. Ragazzi della maggioranza silenziosa, è quasi finita, domani si chiude, Parenzo, è finita, gioisci con noi. Questa esatto. E si è rimbecillito completamente, finita. Questo cretino. Finita, cioè, domani si chiude. Da Manforte. Se finì, come direbbe Macron. Se finì. Claire. Trrr, senti il rumore della Claire. Trrr, chiuso. Chiuso ma tutto. Cosa? Ma chiuso, chiuso cosa? Finalmente. Basta. Mi ritiro per un mese, forse anche di più. Non so se a settembre torno. Ho bisogno di passare un mese intero con Gustavo Zagrebelsky, il professor Salvatore Settis, Umberto Galimberti, filosofo. Me ne fotto di voi. Mi sono rotto i coglioni di sentire tutte queste cose. Finì. Domani se finì. Domani a quest'ora. Champagne. Ultimo giorno. Ma via. Chiuso la Claire. Ascoltate i podcast. Ma non rompetemi più i coglioni delle telefonate, quello che ho chiamato Parenzo. Finiti tutti gli orgasmi, finite le gangbang, finite tutte le porcherie che sento, sai, da 6 anni a questa. Domani si chiude definitivamente. No, ma non si chiude nulla definitivamente. Sì, basta, no. Finiti la corte, no. Finito Riccardo Poli, finito Mercù che ha trovato la nuova via alla sessualità diventando finalmente omosessuale. Tutto finito, ragazzi. Cioè, miei, tu in realtà finito. Ti stupisci del fatto che non chiudano questa trasmissione, che invece è stata riconfermata. Ti stupisci ma moltissimo. Sono riconfermato. Sono rocchi, in questi giorni, visto niente. In queste ore. Io mi rendo, non capisco perché, non vorrei sembrare autolesionista, ma non capisco perché hanno riconfermato questa trasmissione. C'è una cosa di cui mi ne parlavo l'altro giorno a Drevo, professor Settis, preside della normale di Pisa, E anche lui dice: ma è una cosa incredibile, veramente incredibile. Ecco, infatti è incredibile, il più ragazzi, grande archeologo italiano. Vabbè, pazienza, se ne farà una ragione. Ragazzi, mi dispiace di interrompere domani, si chiude. Proprio nel momento del grande trionfo. Il trionfo della gente per bene, il trionfo delle persone che lavorano, il trionfo delle persone che sudano, un trionfo ancora temporaneo, un trionfo provvisorio, il trionfo delle persone per bene, delle persone mai. Che appunto non è il tuo trionfo, è di una proprio, nel sudare, momento del, proprio nel momento del trionfo delle persone per bene, dei camionisti che lavorano, ma delle persone che sono certo. in macchina e che per una volta hanno visto il Parlamento togliere dei soldi ai politici, amici miei, proprio in questo momento, purtroppo bisogna interrompere, perché bisognava godersi questo momento, chiudere. Bisognava goderselo questo momento, è finito tutto, per esempio sentire la voce di Capanna. Senti, rincorso dalle telecamere di dalla vostra parte. Mario Capanna che dice: ma io ho già rinunciato, 5.000 euro di vitalizio, signor Capanna, ho già rinunciato al vitalizio da euro parlamentare. Appunto. Caro Mario, ma chi se ne frega? Ma non è questo il punto, a parte che bisogna vedere se è vero o non è vero. Sentiamo, non si può rinunciare, lo dà in beneficenza, che è un'altra cosa. Ma lei dimentica che io ho rinunciato a un terzo, quello del Parlamento Europeo. Ci mancherebbe. No, ci mancherebbe, no, ne avevo diritto, ma per così dire, quindi l'ho già restituito. Un altro amico tuo si chiama Raisi, l'abbiamo ricordato. Ottimo, più volte. Raisi, bravissimo. Ex deputato di AN. Sì, non la penso come lui, ma è una persona molto molto per bene. Che dice: Raisi, non me ne frega un cazzo del vitalizio, senti. Io mi sono fidato di questo Stato, non ho rubato come hanno fatto altri, adesso mi dicono assolutamente. Io dico che rinuncio al vitalizio, non me ne frega un cazzo del vitalizio, le sto dicendo che voglio semplicemente i soldi che ho versato, perché quelli sono di miei. Ma perché i soldi che gli italiani hanno versato e poi la pensione è stata ritardata o tagliata, li restituiscono? Ma li restituiscono quei soldi? Ha ragione perfettamente Raisi, che come sai ha militato in una parte politica che io non condivido, ma è una persona per bene. Senti, Raisi, contro tre filetti, senti, è una persona Raisi per contro bene. Tre filetti, dai. Sì, va bene. Questa è l'Italia che va difesa, quel poveraccio che ha costruito, allora non solamente non la casa, ma ha costruito il paese. Questi sono i cittadini che vanno difesi. No, gli insulti no, lei si... Parli lei che non fa un cazzo nella vita, Tre Filetti. Effettivamente Tre Filetti cosa fa nella vita? Signor Tre Filetti, fa i consumatori, a difendere difende i consumatori. Allora, anche il signor Brunetta è contrario a questo taglio dei vitalizi. Parla di scempio e di macelleria sociale. Non parteciperemo a questo schifo. Non parteciperemo a questa macelleria sociale, non parteciperemo al voto che mette in dubbio per 20 milioni di pensionati la pensione. Ma non è vero, non mette in dubbio la pensione di 20 milioni di persone, mette in dubbio, per fortuna taglia una piccola porzione di privilegio dei parlamentari. Ma ve lo volete mettere in testa? Ve lo volete mettere in testa che se un operaio versa 5 anni di contributi non prende un cazzo, mentre un operaio, un impiegato, chiunque sia, mentre un parlamentare versa 5 anni e prende 1.500-1.700 euro? Ma un deputato non è un impiegato, è un'altra cosa. Un deputato, un operaio che diventa deputato. Cambiamo argomento. Parenzo, questo ti acciterà, quest'altro argomento invece. Non il cita più niente. Famoso capotreno. Manca meno uno. Il capotreno. Meno uno. Il capotreno, vogliamo parlare? Vuoi introdurre tu questo argomento? Dico solo questo. Dove siete, amici di dalla vostra parte, amici della minoranza rumorosa, amici di tutte queste cavolo di trasmissioni che appena vedono un migrante che corre pensano o che abbia rubato un portafoglio o che stia salendo su un albero di banano? Dove siete, amici miei? Il controllore accoltellato sul treno per Milano, secondo il procuratore di Lodi, si è inventato tutto. Io mi aspetto le scuse, mi aspetto che dalla vostra, dalla non so da quale parte, ma da quella vostra parte, mi aspetto che dalla Zanzara oggi non arrivi una sola, solo scuse voglio, scuse. Quello si è inventato tutto, quel controllore si è inventato tutto. Com'era? com'è? La denuncia di questo qui ha provocato uno sciopero generale. Hanno bloccato i treni della Lombardia per una balla inventata. Ah, amico mio, io mi aspetto delle scuse. Forse anche licenziamento, direi. Ma da parte di tutti questi che chiamano, ma è finita, è l'ultimo giorno. Scusami, è il penultimo giorno. Scusami. È il penultimo. Siamo arrivati in fondo dopo 6 anni di martirio. Ma non è vero, martirio puro. E mi stupisco che oggi tu hai detto c'è stata questa bellissima, ottima conferenza stampa di presentazione dei palinsesti, i nuovi grandissimi programmi che ci saranno. Ma mi stupisco, lo dico contro il mio interesse. Dovrebbero continuare a pagarci ma senza mandarci in onda. Questa dovrebbe essere una cosa pazzesca. Oppure fare una trasmissione io, te e Zagrebensky, ad esempio. Oppure io e Zagrebensky. Potremmo condurre una trasmissione io e Zagrebensky. Spieghiamo a quest'ora la Costituzione come funziona. Scusami, voglio ricordare il tweet di Salvini all'epoca, il post su Facebook, quando uscì fuori la storia. Questo bravo. Bisogna controllare, ragazzi. Sì, bisogna ricordarlo perché le cose vanno dette. Questo si è inventato dietro, tutto. E tu dietro, la corte, coniglio, rimanda gli audio di quando venne fuori la notizia. Rimanda dagli archivi, tira fuori dagli archivi della Zanzara. Quello che adesso morirò, ma ormai è finita. Quello che disse Cruciani quel giorno. Scusa, rimandate quegli audio, infami che siete a Milano della regia. Posso dire chiaramente una cosa. Questo signore qua è un coglione che va cacciato a pedate nel sedere. Troppo comodo. No, che troppo comodo. Se uno dice una cosa ci crede, no? Se uno dice una cosa, un controllore, un capotreno delle Ferrovie Nord di Milano, uno ci crede se dice che è stato aggredito. Voi, operatori dell'informazione. Operatori dell'informazione. Hai controllato tu invece? Che avete costruito su un caso di cronaca, un caso politico come al solito. Avete usato il migrante come strumento per le vostre battaglie. Siete una vergogna, ma è finita adesso. Almeno una si chiude. Veramente una l'hanno già chiusa, quella con Belpietro. Aspetta, non ti accodare a chi vuole chiudere le trasmissioni. Allora, Salvini, 19 luglio ore 13. Aspetta, telefonate da un'altra parte da domani. Ai centralini della Neuro, chiamate da domani. Gli chiede il biglietto, l'altro lo accoltella con violenza mirando all'addome. Ora in fuga, solidarietà al controllore e a tutti coloro che lavorando su treni, autobus e metropolitana ormai ogni giorno rischiano la pelle. Vi pare normale? Gli italiani sono stanchi di farsi mettere in piedi in testa da questi delinquenti. Per quanto mi riguarda, quando saremo al governo, tolleranza zero e stop invasione senza se e senza ma. Tutto questo su una notizia che poi si è verificato. La falsità, ragazzi, perché questo qua va cacciato. Si è verificata la nullità di questa notizia. Sì. Bisogna cacciarlo, questo qui, che è un coglione, uno che si inventa una notizia. Ma non è solo quello. Parenzo, prima o poi te vengono a scasso tutto. La Zanzara. I wanna now, I wanna know. I got to rock, I need to roll. If you can't hang with the speed I go, I'm gonna roll. Parenzo! Direttore pazzesco! Oh, Alucia! Ciao, Parenzo! Che è successo? Hai visto con la faccia da culo? Si è inventato tutto, capito? Si è inventato tutto, ma come? Già stiamo su un periodo del cavolo, capito? Che la gente qua basta che vede uno straniero, vede uno scuro, no? Pensa subito che è clandestino, che questo, che quello, che quell'altro, che fa del male e bla bla bla. Ma adesso dove stanno i ben pensanti che hanno accusato i negri? Dove stanno? Bada bene che sono negro pure io e so brasiliano, capito? Dove stanno questi qua? Ma adesso dovevano telefonare? Devono telefonare. Addio, oh, chiedo scusa di quello che ho detto. Capito come? Chiedo scusa. Sta a capire? Adesso come la pensano quelli là adesso? Sta a capire? Quel capo stazione, li mortacci che piazza in corpo. Capito? Forse devo dai. Bella Crucia. Ma vediamo se lo fa sentire quest'audio. Totte mi fa sentire mai. No, stavolta ti sbagli, amico mio. Caro Parenzo, questo è uno della tua parte, Sì. Ma anch'io sono con lui, per carità. Quello che si è inventato tutto è un emerito coglione. Il capo del partito che ha votato contro l'abolizione, la riduzione dei vitalizi l'altro giorno, cioè Berlusconi. Ripeto, il capo del partito che l'altro giorno ha votato contro la riduzione dei vitalizi, cioè Berlusconi, è annunciato per la settimana prossima in un centro benessere dove spenderà, pare, in Alto Adige 100.000 euro per una settimana. ma cosa sei diventato adesso? No, no, il capo del partito. Trovate ogni strumento per attaccare Berlusconi. Ma no. Sono 20 anni che lo attacchi. 20 anni. E prima le donne, le cose, le robe, il conflitto di interessi. Adesso pure la SPA. Se la paga con i soldi suoi. Assolutamente, figurati. Berlusconi lo deve sapere. Sono 20 anni che lo attacchi. Ah, io. 20 anni. Io da garantista. Beh, cambiano un po' le cose. E io da garantista sono qui a difenderlo. Sei una vergogna, sei una vergogna. Lo hai messo, sulla graticola, sulle donne, su tutto, solo io lo difendevo. Allora, ragazzi, il capo del partito, che fa benissimo perché i soldi via, il capo del partito che si è opposto, alla riduzione dei vitalizi, cioè Forza Italia, o una grossa parte di Forza Italia con qualche mugugno, con qualche piccolissimo distinguo, eccetera, Berlusconi, andrà in un centro benessere a spendere 100.000 euro una settimana, ma fa benissimo, ripeto, però è il capo del partito che si è opposto alla riduzione dei vitalizi. Lo stesso Brunetta, pare, da quello che ho sentito, ho letto sul famoso web, è andato in pensione da professore universitario a 59 anni, quello che si oppone, eccetera. Dopo 38 anni di contributi, anche in parte, com'è il termine tecnico, figurativi, su cui si potrebbe discutere a lungo, naturalmente, però è andato in pensione da professore universitario a 59 anni. E dico solo questo, per carità, non dico niente, dico semplicemente che non c'è alcuna macelleria sociale, non c'è gente mandata per strada, c'è semplicemente il fatto che per una volta, in un sussulto di dignità, il Parlamento ha scelto di diminuire una parte di privilegio a quello che è già un privilegio, cioè il vitalizio dei parlamentari. Nessuno scandalo, nessuna vergogna, è un primo passo, avanti tutto, avanti Richetti. Ovvio. Questo... È così. Ma cosa? È così. Ah, questo è Brunetta. Protestate pure, ma è così. È stupendo. È così. Eh sì, ho capito, ma che c'è? È così. È così. Ma no, non è così. Se non vogliamo, cosa? Riconoscere la realtà. Cosa? Allora, è così. Ma cosa è così? Un genio, però. Mi segnalano dal Veneto, me lo segnala una mia amica, non so se si può leggere questo messaggio, però lo leggo, tanto è il penultimo giorno che se ne frega. Ma che c'è? L'idraulico che sta montando i tubi della cucina ha messo la zanzara a palla. Si porta la radio dietro apposta, l'idraulico. Vai, idraulico! L'idraulico sarà incazzato a sentire gente privilegiata che non vuole togliersi nemmeno una parte di vitalizio. Amico mio idraulico, intervieni subito 800 24 00 24 a raccontarci cosa ne pensi dei vitalizi, perché questo voglio sentire. Voglio sentire il sangue, voglio sentire la gente, voglio sentire le persone incazzate con questi politici che proteggono ancora. Protervi! Vergogna, Librandi, ti faccio sentire Librandi. Il controllore di Lodi sarà stato un leghista. Sì, ma è probabile. Librandi. Probabile. Un flash, la procura di Lodi dice che il controllore accoltellato dal migrante, era una storia di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, aveva raccontato di essere stato accoltellato da un migrante in treno da Piacenza a Milano, si era inventato tutto. Sarà stato un leghista, al minimo. Allora ragazzi, c'è una storia che riguarda Sgarbi. Come sapete, noi seguiamo sempre in maniera molto puntuale le peripezie del professore. Non vi racconto quello che c'è dietro, ma c'è uno scontro molto forte tra Sgarbi e un intellettuale di Urbino, un tale Malerba. Litigano perché cosa? Litigano su cose, di giudizi su monumenti, su opere d'arte, cose locali. Ma senti gli insulti a raffica di Sgarbi contro Malerba. Ma perché? Senti, ti prego, perché è eccezionale. Senti, ripeto, è Sgarbi contro un tizio che si chiama Bruno Malerba, che io non conosco, che è uno storico d'arte, credo, comunque uno esperto. Litigano per cose loro. Senti cosa dice Sgarbi. Federico intervenne a completare i lavori a partire probabilmente dal cortile. Coglione, ignorante, testa di cazzo, rotto in culo, Malerba del buco del culo. Almeno quando critichi, informati, merda assoluta. Ecco, questi sono i miei critici di Urbino. Avete visto? Testa di cazzo, rotto in culo, pezzo di merda. Ecco, Malerba è questo, Malerba, pezzo di merda, ruffiano, leccaculo, volpone, non l'hai quasi conosciuto, e rompi i coglioni a me dicendo, capisco che uno che voglia prendere in castagna Sgarbi, si è fatto un errore, è palese. Standing ovation, Sgarbi è un vero genio, a Frassassi, mio stupido ignorante, dice a me, mi dice, mio stupido ignorante, questa faccia di merda, rotto in culo, brutto, che non ha mai visto una bella ragazza e si è fatto solo seghe tutta la vita, segaiolo dalla scuola ad oggi, questo sei tu, Malerba, tutto sega. Tu non lo capirai mai perché sei solo Malerba e morirai Malerba con un nome di merda che dice la tua ragione, erba cattiva, faccia di merda. Non lo so. Ma l'ha appoggiata piano. Ma non lo so, non lo so, non lo so, ragazzi, dai. Allora, dove andiamo? Mario da Roma, vai, vai, vai, Mario da Roma, veloce. Buonasera, Cruciani. Dimmi, dimmi, Mario, dimmi. Volevi il sangue? Io ce l'ho pronto. No, per carità, ma non è per forza il sangue. Dimmi che cosa vorresti fare, dimmi, con i vitalizi, allora, con i politici, allora, con quello, diciamo, che ti io pare. Prendo spunto, diciamo, dalla definizione, dall'idea di onorevole che ieri ha esposto Parenzo. Diceva che, diciamo, l'onorevole... Sono diversi che... dai cittadini, dai, così. E questo per me, è io, diciamo, fatto. Fondamentalmente, condivido inaudita. Benissimo questa tesi. Però a questo punto l'onorevole deve comportarsi di conseguenza. E allora che c'entra questo? Allora, lasciamo perdere, diciamo, gli onorevoli, quelli che hanno meno di due neuroni, tipo Razzi. A lui il vitalizio glielo lascio, così ci si compra le pasticche, la tintoria per la camicia di forza, l'elettroshock. Allora? Ma agli altri, c'è la macelleria sociale. Se io penso agli esodati, non è macelleria sociale quella... Io da onorevole, di fronte a uno schifo simile, da disonorevole, mi sarei messo in ginocchio, chiesto scusa e rimediato il giorno dopo. Mentre questi qua si lamentano per l'incostituzionalità. Io ve lo lascio. Ma chi se ne frega, affidano tutto alla Corte Costituzionale, una vergogna. Certo, Antonino da Bari, veloce, Antonino, vai. Antonino, vai. Visto che non siamo della Turchia di Erdogan. L'immenso... Parenzo, e saluto Cruciani. Vai, vai, Antonio, dimmi. No, volevo dire semplicemente che i parlamentari non sono dei nostri dipendenti. E no, come no? Che sono nostri dipendenti. Ma dove è scritto? Più o meno, sì, in senso figurato. Ma smettetela di dire queste stronzate. Bravo, il parlamentare è un nostro rappresentante. Appunto, nostro. Perché... Nostro. Ma non può essere nostro dipendente, perché è in senso figurato, è in senso, come dire, no? Di mandato imperativo, non deve fare amico quello mio. Che vogliamo noi. Basta con sta storia, basta con sta storia, è vecchia, è una roba vecchia. È l'essenza della democrazia. È una roba vecchia, li hanno ridotti nel vitalizio come i dipendenti pubblici, Antonino. Sei venduto all'audience e dici un casino di stronzate, sei un populista. No, Cruciani. Sei un populista. Ti piace Parenzo, il trecce e dici puttanate. Ma a chi ti stai riferendo? Il vitalizio è un principio di democrazia. Il vitalizio è un principio di democrazia. Ciao Giuseppe, io ti voglio bene. Quel bastardo, questo bastardo che hai accanto, questo schifoso. Sei un gabinetto schifoso. Mentre lei sta chiamando qua, a casa sua, sua moglie si sta divertendo. Mia moglie è qua accanto a me, bastardo. Guarda nella puttana di tua moglie, perché tu sei riccione, tu sei. Guerrerami, merda, guerrerami. Tu sei riccione come Macron. Tu sei riccione come Macron. Tu sei riccione come Macron. Tu sei riccione come Macron. Cruciani, manda in onda questo che ne va del futuro della Zanzara, ti prego. Non me ne hai mandato mai uno, ma questo devi. Vado su Facebook, conosco la ragazza più bella del mondo, mi contatta, tra una registrazione vocale e l'altra ascolta di sottofondo la Zanzara, mi chiede: ascolti la Zanzara? Io sì, allora ti sposo, siamo al top. Allora Beppe, Stefano e Marco da Bergamo, grandi ascoltatori della Zanzara. Grandissimi, oserei dire. Grandissimi ascoltatori della Zanzara da anni ormai, direi. Una perla sul finale di stagione. Marco poco fa, qui, in un paesino sperduto delle Eurobie, mi ha confessato questa cosa, a 24 anni. Se entro i 25 anni non perderò la verginità, andrò a prostitute. Beh, amico mio, siamo al top, siamo al top. Al topissimo. Ciao Parenzo. Cruciani, lo sai che io mi masturbo mentre ascolto la Zanzara? Sì, quando sento la tua voce mi eccita da morire e mi masturbo. Anche quando parla Parenzo mi immagino una bella DP. Siamo al top. the warnings past the gas and plastic kids are flung across the stars. The psychodramas and the traumas gone, the songs are left and sung and hung upon the scars. And then along comes Mary. And along comes Mary. And does she wanna see the stains with the remains of all the pain she left the night before? Or will the waking eyes reflect the lies and make them realize the urgent cry for sight no more? Knowing that I was sure out to lunch, now my empty cup tastes as sweet as the punch. Sweet as the punch. Allora andiamo con Aldo, Aldo da Como, vai. David, ci sei? No, non c'è. Adesso arriverà, eh. David? Sì? Ma dove cazzo sei? Non ho capito. Che è successo? Parenzo! Ma chi è che urla così? Cos'è? Cos'è? Ma non c'eri, cazzo! Ma come non c'eri? Ma non c'eri! Ero qui a leggere delle cose che cosa? Mi ha mandato il professor Setti. Ma chi se ne frega? Mi avete stufato tutti! Oggi che giorno è oggi? L'ho detto prima. 27. Sì, sì. Ma il 28, amico mio, è la festa della liberazione, non è il 25 aprile, è il 28 di luglio la festa della liberazione! Chiude tutto, sì, ma qui! Ti segnalo che questa baracca è stata confermatissima. Come leggo adesso in un articolo di Dago Spia, confermatissima la Zanzara. Confermatissima la Zanzara. Cambia la programmazione. Nuova conduzione Zagrebeschi Parenzo. Ottimo, cambia tutto. Ma io mi chiedo, ma Barisoni, perché non facciamo una conduzione? Ti posso leggere questa cosa? Non parlare sempre. Oggi sei scatenato. Siccome devi finire domani, vuoi dire tutto quello che c'è da dire. Finito. Sì, devo togliermi tanto di quei sassolini. Allora, cambia la programmazione. Aspetta, cambia la programmazione. All'alba torna Luca Telesi, che fu epurato per una battuta sulla Marcegaglia. Scrive, è inutile ricordarlo. Sì, ma non è vero. Non poi ha senso ricordarlo nel giorno che l'hanno riconfermato. Esatto. Vabbè, comunque, bravissimo. Dico, poi al posto di Minoli arriva il trio Alessandro Milan e Veronica Gentili e Leonardo Manera. Nel weekend il noto chef Davide Oldani e il noto mangiatore Pierluigi Pardo. Confermatissima la Zanzara. Ti dico solo questo: confermatissima la Zanzara. C'è scritto? Sì, c'è scritto così. Ma non è detto, magari la fanno Zagrebelski e Settis. questa sarebbe un'idea, cioè mettere due grandi intellettuali a fare questa trasmissione. Ovvio. Cosa ovvio? Ma è cosa? Così. Ma è così cosa, è Brunetta? Così. Ma Brunetta, che dici? È così cosa? Allora ragazzi, volevo segnalarvi, ma non per iniziare una discussione su questo, che la prova che non solo Napoli fa schifo, ma anche Roma fa schifo, diciamolo chiaramente Parenzo, Roma fa schifo, sì, diciamola tutta. No, non è che fa schifo la città, no, fa schifo il modo come è tenuta, eccetera. Fa schifo... Ecco, la fotografia del fatto che Roma fa schifo, che è il titolo anche di un famoso blogger che giustamente titola tutti i suoi pezzi, tutti i suoi articoli con Roma fa schifo, è in un'intervista oggi al Corriere della Sera di un signore che è il direttore generale dell'azienda dei trasporti di Roma, scelto dai grillini, ti voglio far notare, Grillini. Direttore generale dell'azienda dei trasporti che si chiama ATAC, che io da tempo, lontanissimo dico che andrebbe chiusa e riaperta naturalmente, ma chiusa domani per fallimento. Pure. Questo signore, questo Rota, certo amico signor mio, Rota. Dice, l'ATAC signor schiacciata Rota. Dai debiti, fatico a pagare gli stipendi, servono decisioni subito, sì però prendi queste decisioni adesso amico mio, perché ti hanno messo lì apposta. Comunque dice, il personale timbra poco e male. Si parla di turni massacranti, ma c'è gente che non arriva a 3 ore effettive di guida quando le fanno. C'è gente che non arriva a 3 ore effettive di guida quando le fanno. Ma lui cosa capito? Sta a fare, scusa. Ma anziché denunziare, cosa stava a fare? Lui? Va benissimo. Spero che cambierà registro. Sì, ma fa benissimo. È ottimo, lì per cambiare Rota. Registro. Dai, mi su. Piace molto Rota. Ragazzi, Rota avanti tutta. Esatto, Rota. Ma non vi fa godere. Anzi, Rota arrota quelli che non lavorano. Ma non vi fa godere, ragazzi, il fatto che 2600 sono le persone, gli ex eletti di Camera e Senato che percepiscono il vitalizio. 2600. 190 milioni di euro la spesa annua dei vitalizi. I risparmi sono 76 milioni di euro. 76 milioni di euro. Capito? 76 milioni di euro. Destinati a Lampedusa, vengano destinati ma che all'accoglienza, Lampedusa, vengono ma quale destinati Lampedusa? Ai profughi del mare. Ti voglio vengono leggere destinati... un'altra cosa interessante, caro David, riguarda la masturbazione. Allora, vedi perché no, non posso è importante più, passare dalla. No, perché è importantissimo questo: passare dalla questione dei trasporti a Roma, molto importante. La questione dei vitalizi, ancora più importante, alla masturbazione. Allora, c'è un'associazione cattolica che si chiama Luce di Maria. Luce di Maria, e va bene, ognuno chiama le associazioni come vuole, Luce di Maria, Luce di Cristo, uno crede nella Maria, eccetera. Pubblicano quelli che si oppongono anche loro a Marilyn Manson, ai concerti di quello che dicono essere l'emissario di Satana, eccetera. Hanno diffuso un documento sulla masturbazione. Dicono, dicunto questi signori, dicunto, la sua pratica è effettuata sin dalla pubertà e coinvolge indiscriminatamente ragazzi e ragazze. Molte volte questo vizio si trascina per tutta la fase della crescita fino a diventare una pratica inscindibile dalla routine quotidiana. Stiamo parlando della masturbazione. Frase di un momento di terrore, no? Innanzitutto bisogna sapere che la masturbazione è frutto di un disturbo mentale o della personalità. Si tratta di una pratica che nasce con l'uomo e che viene condannata sin dall'antichità. Basti pensare che veniva esplicitamente bandita sin dall'antico Egitto e che veniva considerato un peccato mortale dalla popolazione ebraica. Sì, amico mio, però all'epoca condannavano a morte la gente, cioè lapidavano le persone. Si potrebbe pensare che si tratti di una fase adolescenziale dovuta alla scoperta delle pulsioni sessuali, ma al giorno d'oggi anche uomini e donne sposate si masturbano costantemente, nonostante una vita sessuale soddisfacente. Questo perché la società insegna che la masturbazione non solo non è un atto di cui vergognarsi, ma che si tratta anche di una sana abitudine. Durante la lezione di educazione sessuale viene detto ai soggetti in fase di sviluppo che non bisogna provare rimorso, ansia o vergogna nel masturbarsi, perché si tratta di un atto fisiologico quasi necessario che non causa alcun danno alla salute. Quest'ultimo messaggio è contestabile, dato che molti medici ritengono che una costante masturbazione possa arrecare problemi fisici ma soprattutto psichici. Come si può evitare di commettere quest'atto impuro? Di seguito vi daremo dei consigli che vi potranno aiutare ad astenervi dalla masturbazione. Senti, il primo passo, tu sei molto interessato dato che ti masturbi tanto, il primo passo è quello di passo è quello di analizzare il vizio e non viverlo come un problema. Se ti masturbi non sei malato, indemoniato o maniaco sessuale, meno male, grazie. Eliminare le fonti di tentazione, la televisione e internet sono un continuo stimolo, la televisione e internet sono un continuo stimolo alla pulsione sessuale. Selezionare programmi e siti può aiutare a evitare la tentazione. Evitare i tempi morti. Molte volte la masturbazione è un riempitivo, un modo per occupare il tempo e vincere la noia. Per questo è necessario crearsi hobby, attività diversificate. Molte volte l'attività fisica abbassa il desiderio sessuale. Affidati a Dio. Può capitare che nonostante la volontà di non masturbarti tu possa cadere in tentazioni. In questo caso chiedi perdono a Dio, naturalmente, e poi offri il tuo spirito a Lui, nutrendolo con la preghiera. Amici miei, seguite tutti questi consigli. Se vi masturbate troppo, come fanno Parenzo, come fa Mercù, signor Pietro La Corte, anche lui un grande masturbatore, come sai, no? La Corte. Cosa? Non fammi parlare. Enrico da Brescia. Non fammi neanche parlare, perché altrimenti. Enrico da. Chi c'è? Chi è che mi chiamate? Aldo da Como, ok? Era prima Aldo, ma chi Enrico, se ne fotte? Ah, aspetta, Enrico, fermo. Prima Aldo, vai. Dimmi Aldo. Allora, dimmi. Ciao Cruciani. Vai, e un saluto a Parenzo. Vai Aldo, vabbè, calma. Dimmi. Allora, sì. Innanzitutto no, è inutile farsi la bocca sui vitalizi, tanto sappiamo tutti che tanto non passerà mai, quindi esatto. è meglio non illudersi. Bravo. Ma chi l'ha detto? Uno, non è vero, attento, fermi. Sta peggio, meglio non farsi illusione, poi non sta male due volte. Attento, calma, voglia a te, attenzione, in questo momento non è facile bocciare questa legge. Non è facile. Non succede, ma se succede che non passa. Volevo fare una proposta. Se succede, tu lo sai che se succede che bocciano queste leggi i grillini pigliano il 50%, sì, tu lo sai, sei consapevole di questo, sì, sei consapevole. E allora ti conviene questa legge passi nella tua ottica è fermare i grillini, ma non fermare la mia ottica è fermare questa trasmissione, non hai capito? Ma per fortuna si ferma da sola, perché da domani Aldo da Como, Aldo, guarda, da 7:30 di domani, 8:50 veramente, comunque di domani, Aldo, dimmi. Le 8:50 di domani, mamma. Aldo, dimmi. Allora, io a proposito di masturbazione, prostituzione, ecco, queste cose qua, sì, avrei una proposta da sottoporre. Sì, però veloce, amico mio, ma si possono fare anche delle proposte su questo tema? Scuole, visto che tanto la religione non l'ascolta più nessuno, ma chi l'ha detto? Togliamo l'ora di religione e mettiamo l'ora di prostituzione, l'ora di masturbazione, in cui dei professionisti. No, delle questo persone, non sono d'accordo, lo sai? Non sono d'accordo. Insegnano come si fa. No, non sono d'accordo, amico mio. Non sono d'accordo. D'accordo, le lezioni di sesso a scuola vanno evitate. Già ci sono i genitori, ci sono gli amici, ci sono internet, c'è il web, c'è quello che vuoi. A scuola i professori che si mettono a fare lezioni di sessualità, no, grazie. No, grazie. Chi le fa allora a scuola? Mio nonno, tu vai? Vai tu, masturbatore seriale? Uno che si fa 10 sega al giorno come te? Ma che porca. Cioè, Aldo, quanto ti fai, scusa, al giorno? No, una sega al giorno? Mica come lo scappellato lì, Parenzo, lì, c'è. circonciso, un altro discorso. Capite, grazie per diffondere anche dati sensibili. Arrivato da Bergamo. Ormai proprio gli argini rotti, tutto rotto. E voglio segnalare che su Corriere della Sera... Ci vorrà del tempo per ricostruire sto paese, ma cominceremo con la chiusura di questa trasmissione. Perché il livello di moralità di questo paese è talmente basso, no, voglio tu dirti, hai contribuito. Voglio dirti una cosa, il Corriere della Sera pubblica sulla sua homepage una grande inchiesta su Napoli. Il Corriere della Sera è Napoli, vi leggo solo il titolo, Napoli, la Baghdad dei clan. Napoli, la Baghdad dei clan. Viaggio, faccio come Sgarbi, viaggio a 360 gradi tra mamme pusher e killer bambini. Centrale di confezionamento di dosi di crack in una casa con diversi bambini. Ragazzi, di questo stiamo parlando. Poi quando uno dice Napoli, la Baghdad dei clan. Arrivato, Bergamo, vai, vai, arrivato. Allora, scusa, come ti chiami? Arrivato tu? Che cazzo di nome è Arrivato? Privato, contrario del pubblico. Cioè, ognuno tu ti chiami Privato di nome? Privato di nome. Vabbè, Parenza, esatto. È normale questo qua si chiama Privato di nome, secondo te? Sarà uno che è cresciuto alla scuola di Milton Friedman e degli liberisti, dei liberali, vuole privatizzare tutto, evidentemente, la sua famiglia. Ma non fare il solito. Ma scusa, ma Librandi, non possiamo sentire pubblico. Librandi contro Fusaro, che è meraviglioso. Sì, adesso te lo faccio sentire, sì. Dimmi. E lavoro nel pubblico. Dai, dimmi. Penso che la politica è fondamentale. Il politico è insostituibile, il deputato, ci mancherebbe altro. Allora... Però nessuno dovrebbe né guadagnare soldi né perderci. Diamo la dote al deputato, per fare il deputato, la divisa gliela diamo, il massimo della divisa, però lo stipendio, quello che serve per mantenere la famiglia e per farsi la pensione, allora... è quello che prende nella sua vita civile, punto. Tutto il resto, privilegi eccetera, ma che se li prendano, se li godano, ma finiranno tutti in medicina, questo è l'augurio che gli faccio io. Oltre adesso, questo a non che è bello però, scusa, tu stai augurando le malattie per tutti i deputati e tutti i senatori, per tutti i parlamentari, allora, per tutti i politici, amico mio. Se loro si comportano come, giustamente dice Parenzo, il deputato è una persona molto particolare. Vabbè, allora, hai appena detto, tutti i soldi che prendono devono andare in medicine, stai augurando le peggiori malattie ai politici, cosa? No. Se sono dei privilegi a scapito di altri, questi devono finire in medicine, non quello che è dovuto. Vai, Giuseppe, provincia di Frosinone, Giuseppe, dimmi. Buonasera Giuseppe. Vai, dimmi. Senti, allora, ascolta, a me fanno incazzare nero, soltanto quei politici... Fanno incazzare nero? No, sono incazzato nero al limite, fanno incazzare nero. Sì. Fammi finire. Mi fanno incazzare nero, non funziona, però va bene lo stesso, per carità, ecco. C'è libertà di lingua, anche di errore. Ascoltami, quando dicono io ho versato, una busta paga, ma secondo te uno che prende 20.000 euro ne riscuote effettivamente al netto 12.000, gli altri 8.000 vengono versati da noi. E allora? Ti sembra giusto che lo dicono? Io ho versato perché questa gente... Bravo, ha ragione Giuseppe Parenzo. Aspetta, Giuseppe ha ragione. Quelli che i soldi io ho versato, ma sono soldi nostri quelli là, che c'entra? Sono soldi nostri. Dio ma tanto, io quello che vi dico nostri. È semplicemente che la pecca di questa legge è il fatto, un conto è applicarlo su quelli che verranno dopo, un conto è togliere dei soldi, sentiamo il marchingegno che ha trovato, un conto è togliere dei soldi a chi onestamente ha sempre fatto il lavoro di deputato per una vita, dedicando una vita a questo paese, e viene oggi trattato da gentaglia come voi, gentaglia, perché voi siete gentaglia, non genta, l'ottimo genta conduttore, siete gentaglia come voi, che tratta sti deputati come dei ladri. Io questo non vi sopporto, per questo non sopporto, perché fermo. I D'Alema, tutti questi a cui verrà bello, deputata che godimento, 2.000 euro in meno, cioè, chi è che non gode oggi in Italia? Chi non gode oggi in Italia? Perché tolgono a quello 1.000, all'altro 2.000, a quello 3.000, a quello 900, a quello 700, il 90% degli italiani gode, il punto è questo, gode, gode, il fascismo, cosa vuol dire? Ma che c'entra? Fermo. Luciani, ma ti pareva che con una merda come quel deficiente nano lì non ci fosse un gran coglione di comunista di merda? Ti spaccherò la faccia se non mi raccuori. Comunista di merda. Non mi importa se non mi ami più. Quel nano malefico. Non mi importa se non mi vuoi bene. Dovrò soltanto imparare a camminare. Se non ci sei tu. Comunista di merda. Cos'è Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Parenzo, ma lo vuoi capire che la prostituzione è il mestiere più vecchio del mondo? È che in Italia ci sono degli ipocriti come te, perché tu sei un ipocrita su questo argomento, che non lo vogliono regolamentare. Ma la prostituzione c'è e ci sarà sempre, perché oltre che essere una cosa giusta, è una cosa sociale, aiuta la società, aiuti coloro che hanno bisogno, che hanno difficoltà in quel campo lì. L'hai capito, testa di minchia? Dovrò soltanto imparare a camminare se non ci sei tu. Mamma mia, mancano 2 giorni e quanto mi mancherà Parenzo e la Zanzara. Maggioranza. David! È finì. C'è un sacco di gente qui che ti vuole fare la pelle. Ma hanno detto che c'è stata una sorta di occupazione mano militare della sede del cosiddetto Sole 24 Ore. Cosiddetto. Ti avverto che abbiamo chiamato Casa della Capanna prima e ci ha assicurato che intorno alle 20:15, sì. 20:20 potrebbe anche intervenire alla Zanzara. Ah, ottimo, intervenire per dire la sua. Ottimo. È molto incazzato, sì, perché gli hanno ridotto di qua un 1000 euro il vitalizio, di 5000 euro. Un uomo che ha fatto grande. Comunque è pieno di gente qui che ti vuole fare la pelle. Adesso fra poco ti spiegherò tutto. Ti spiego cosa accadrà. Ci sarà, come sai, tra l'altro, inutile che fingiamo, un mini concerto del signor Ruggero, che è qui presente live. Iniziative della Zanzara, le grandi iniziative. Allora, no, però prima ti voglio presentare un signore che si chiama Filippo da Padova. Ma non mi interessa da Padova. No, ti dovrebbe interessare. Filippo da Padova, senti, dalla tua città, vai. Pronto? Sì, di Filippo, dai. Sì, buonasera. Buonasera cosa? Perché buonasera? Non si dice buonasera, ma non esiste buonasera. No, non deve dire vaffanculo. Buonasera, va cancellato. Buonasera, buongiorno, grazie della trasmissione. Siete bravi, siete pippe, va bene, siete pippe, meglio che siete bravi. Cioè, tutte queste cose vanno cancellate, vanno distrutte. Chiaro o no, Filippo? Dai. Chiarissimo. Allora, mi piace questa tua sottomissione, mi piace questo atteggiamento da sottomesso. Filippo, vai, dimmi. Niente, per quanto riguarda i vitalizi, adesso questa è la prima puntata, manca la seconda. Sì, sì, vabbè, allora lo sappiamo, non c'è bisogno di ciò dici tu. Sarà una palude, sì. e quindi vedremo se veramente... Vabbè, questo lo sappiamo, che cosa vuoi dire di nuovo? Lo sappiamo già. Semplicemente questo. Cioè, ma tu un po' stai godendo o no? Stai godendo perché c'è 1000 euro in meno all'altro, leggo qui... Scusami ragazzi, Fini, adesso non vedo più un cazzo, io a Fini hanno tolto 2200 euro, a D'Alema da 5523 a 3314, a Bertino da 4852 a 2291. Facciamo finta che sia così. Mastella da 6939 a 4164. Publio Fiore da 10131 a 6079. La Staller, mi dispiace, quello devo dire, da 2231 a 1338. Tutto questo, ragazzi, vi fa godere o no? Io sì, no, a me mi fa godere, a te non te ne frega niente. È la prima puntata, ci auguriamo. Ciao Filippo, buonasera. Sì, con noi insieme una ventina di cazzoni che sono venuti fino a qua. Ruggero dei Timidi, vai Ruggero, inizia subito, vai. Buonasera a tutti gli ascoltatori, sono Ruggero dei Timidi e queste sono le mie canzoni. 1, 2, 3, 4. Stasera mia moglie è con le sue amiche, così mi ha detto, io mi fido, Sarà una serata un po' malinconica. Bevo un amaro, vado al videopoker, faccio 4 passi tra negozi del centro, poi leggo un'insegna che dice così: vuole massaggio romantico per una notte romantica. Impreparato mi coglie. Ehi, cosa fa? Chi glielo spiega? Mia moglie. del suo massaggio romantico, oh, oh, di questa notte romantica, ah, ah, ma questa cosa l'apprezzo, sì sì, altro che, anche se c'è il sovrapprezzo, non ti fermare, vai, vai col massaggio romantico, oh, oh, vai con la notte romantica, ah, ah, comincia a trar giovamento da questo strofinamento, vai, vai, vai col massaggio romantico, oh, oh, vai con la notte romantica, ah, ah, ah. Ma quanto è brava la Cina nell'arte della manina. Ci frequentiamo da un po', ma non so perché non mi vuoi amare. Cara, cosa ti frena? Vuoi rimaner pura? Hai un altro, forse non mi vuoi. Ma stasera ti sei concessa a me e finalmente ho scoperto che tu hai la candida. Sì, tu hai la candida, la candida voglia di amare solo me. Tu hai la candida, sì, tu hai la candida, la candida voglia di amare solo me. Tutti assieme, candida, candida, chi lo avrebbe immaginato? Candida, io te ti stai sopra un prato, candida, ma quanto è bello il nostro amore, candida, mi fa bruciare di passione, candida, voglio cogliere la tua rosa, candida, bianca come una sposa, candida, sei la mia patatina, candida, anzi la mia ricottina, sì, perché tu hai la candida, sì, tu hai la candida, la candida voglia di amare solo me. Tu hai la candida, sì, tu hai la candida voglia di amare solo me. Oh yes! Parenzo, quante donne tue hanno avuto la candida? Di la verità. Dottore, all'alme, all'alme generale, signor Lugello Timidi, dice perché lì è l'adio Confindustria. Dottore! Quante donne tue hanno... Cioè, hai preso dottore, mai... Dottore! Dottore, sono tornata! Fare... Io devo dirti la verità. Una volta, sì, io, mio zio, come sai che è urologo, no? Un urologo, sì, molto povero, famoso. Povero zio, ormai povero zio, povero non zio. Opera io più. Mi chiedo una cosa, però. Com'è possibile che la Confindustria, che ha avuto tra i suoi iscritti persone eccezionali come l'avvocato Agnelli, grande... Ma come si fa, voglio dire, come si fa? Aspetta, immagini l'avvocato Agnelli che si sente, no, torna dall'aldilà. Oh, allora, sentiamo che cosa c'è sulla radio della Confindustria. Accendi, se ne voglio la candida. Io dicevo, c'è un errore sicuramente, ma tornare, un errore pazzesco, no? L'avvocato Agnelli, Romiti, Cesare Romiti, tu ti immagini Romiti, no? Che sono iscritto alla Confindustria per tanto tempo. Guarda, che stai parlando di persone che conoscevano l'arte del sesso in maniera molto, molto approfondita. Vabbè, forse caro ho fatto esempi lo sbagliati, sai benissimo, però forse... alzi la mano qui, sì, chi non ha preso la candida, cioè chi, anzi chi l'ha presa, chi ha preso la candida qui tra tutte queste persone qua, alzate la mano, vigliacchi maledetti, siate onesti con voi stessi, quanti l'avete presa, quanti l'avete presa, la moglie di due, do solo la due, moglie di Ruggero, per forza, la moglie di Ruggero, che ne sai, scusate, no, manco di sport, però fermi tutti, ah, l'hai presa tu, l'hai presa da chi, chi l'ha attaccata, no, tu? Tu l'hai presa, la moglie di Ruggero. Ma chi sono sti miserabili? La moglie di Ruggero. Vabbè, ragazzi, la questione fondamentale è un'altra. Adesso ci fermiamo per un secondo perché ti voglio far ascoltare. A un certo punto mi arriva un messaggio, uno screenshot di un messaggio su Bacheca con un numero di telefono, sito giapponese giovane. Bella, brava, carina, anni 25, zona quartiere, via Parenzo. Ma chissà perché via Parenzo. Via Parenzo. Sì, via Parenzo, sai, c'è la via Parenzo qua a Milano. 2143, 2143. Allora, zona quartiere, via Parenzo, 2043. Sì. Allora ho pensato... in maniera manifestofelica, sì, di far chiamare a un cliente. Un cliente chiama questa signora. Solito sentiamo, maiale di Mercuso. Sentiamo che succede. Solito maiale. Sentiamo. Via Parenzo, sentiamo. Pronto? Sì, ciao. Mi chiamo Andro. Ciao. Sei tu la giovane giapponese in via Parenzo? Sì. Vedo che sei bella, brava e carina. Ecco. Sì. Ricevi in via Parenzo, questa è una meraviglia. Tu? Fine alle 10 mesi e sera. Come, scusa? Fine alle 10 mesi e sera. Ah, prima delle 10 e mezza la sera. Sì. Sì, senti, tu conosci Parenzo, visto che sta in via Parenzo? Mm-hmm. Conosci Parenzo? Sì. Pia vicino Pia San Eglari. Sì, sì, sì, sì, no, questo l'ho capito, ma se conosci David Parenzo, visto che la via è via Parenzo. Sì. Parenzo è leader della maggioranza silenziosa. No. Ah, ecco, mi sembrava strano, perché lui è contro le prostitute. E per questo fare sesso con te in via Parenzo mi stimola un casino. È molto eccitante. Quindi. Tanto palcaggio. Scusami, puoi parlare un po' lentamente? Tanto palcaggio. Tanto? Tanto palcaggio nella macchina. Ah, c'è tanto parcheggio. Sì. Ecco. E alla faccia di Parenzo. E quanto costi? 50. 50. Ecco, visto che siamo in via Parenzo, a me sì? ti chiedo due cose. Durante il rapporto mi piace se urli alla faccia di Parenzo. Si può? Io poco italiano, vieni qui a parlare, ok? Sì, sì, ma mentre facciamo sesso alla faccia di Parenzo. Si può, no? Ok, ecco, va bene. Ok, un'ultima cosa. Allora, hai detto 50 e... Culo? Cos'è? Culo, se a me piace anche il culo. Culo no, mi dispiace. Se facciamo 50 più 20, culo? No, niente, culo no, niente. Niente culo. Che bello. David, che dici? Siete dei criminali, siete. Non c'è niente, ma ci vuole l'arresto immediato. Siete, ma ci sarà una procura della Repubblica? Ci sarà un magistrato? Appello alla Boccassini, fermate Mercù, fermate questo scempio che ogni giorno avviene. Però ragazzi, siamo qui con Ruggero De Timidi, che adesso ci fa uno dei suoi must. Lo so che siete caldi qui intorno, cosa volete? Cosa volete? Padre e figlio? Aspetta, volete forse padre e figlio? Padre e figlio, one, vai! 1, 2, 3, 4! Dopo aver coricato il figlio, il padre nella stanza sua si veste, guardando malinconico il giaciglio di sua moglie grassa in sottoveste. E mentre gira piano la maniglia per evadere dal suo tormento, esce impertinente il ragazzino, gli chiede: padre, dove stai andando? Papà sta andando a trans, papà sta andando a trans, non c'è niente di male, sono eterosessuale. Papà sta andando a trans, papà sta andando a trans, papà non è cattivo, a volte è un po' passivo, ma solo con i trans, solamente con i trans. Ribadisco, con i trans. Ha! Ormai piagnucolante il fanciulino gli chiede: padre, cosa sono i trans? Ma come fa a spiegare al suo infante? Son donne dal clitoride ingombrante. Gli dice: il trans è una cosa bella, è come aver fratello con sorella, ma uniti in una persona sola che t'ama con tutto il cuore in gola. David sta andando a trans, David sta andando a trans, non c'è niente di male, David è eterosessuale. David sta andando a trans, David sta andando a trans, ti porto, lo prometto, quando ci avrai il pizzetto, così andrai a trans, anche David andrà a trans, finalmente andrà a trans con Cruciance. No, beh. Sì, allora David, facci arrestare tutti oggi, ti prego. Facci arrestare, sì, è la procura della Repubblica. Procura della Repubblica, viale Monterosa, per cortesia, subito, volanti e un fascicolo aperto, non allora... contro ignoti però, ma contro noti allora, criminali. Bisogna dire che sia Ruggero una specie di nostro, sì, Marilyn Manson. No, no, cui... grazie. Vabbè, non me l'ha mai detto nessuno, cioè, no, Marilyn... ti auguro di avere lo stesso successo. È uno dei grandi bisogna intellettuali che... della contemporaneità. Assolutamente, sì. Bisogna, sì, dire che in autunno farà un grande live, sarà la notte timida, esatto. Si chiamerà la notte timida. Ha fatto anche un nuovo singolo che si si chiama reggaeton, come si chiama? L'estate del reggaeton. Però reggaeton. C'è tempo per stare, non molto, ci sono 10 minuti, però prima ragazzi, innanzitutto chi è che è andato a trance qua? Non fate i... mamma mia, cioè siete veramente dei mentitori professionali, cioè almeno il 30% di quelli che sono andati qui hanno provato un trance ma non lo vogliono dire, c'è una cosa incredibile, cioè siete vergognosi, siete dei mentitori, ma come no? Ma bisogna dire la verità, quanti sono andati? Cioè, nonostante sia lì sarà gente per bene. Sicuro, lui l'altro, là, quel fighetto, là sicuro al 100%. E allora adesso vai con lo squirting, amico mio, vai. Siamo pronti? Vai, siamo pronti. Siamo pronti. Abbiamo dato la linea, ragazzi, negli ultimi mesi, dai, via. Non sulla politica in realtà, sullo squirting, caro Davide. Ecco tutto. Quanto è stata amara quell'estate al mare, senza far l'amore. 20 anni fa io ti lasciai sola su quella battigia. Tu che mi dicesti, ma perché mai fuggi, di che hai paura? Io però scappai per quel tuo modo strano che avevi di eccitarti. Tutto lo studio, vai ragazzi! Spruzzavi acqua dalla vagina ed io mi spaventai. Ora lo chiaman squirting, ma ai tempi non sapevo, credevo stessi male. Spruzzavi acqua dalla vagina ed io mi preoccupai. Mi visitò un dottore, mi disse non è niente, è nettare d'amore. Cara, ti ho pensato spesso in questi anni e voglio farmi perdonare. Torneremo io e te su quella spiaggia e stavolta non scapperò, no. Ora ho capito tutto. Vittorio Sgarbi mi ha fatto conoscere delle ragazze che anche loro la fanno quella cosa lì, e ne fanno tanta. Questo perché spruzzare acqua dalla vagina adesso è assai in voga. Stanotte voglio che rimani, spalanchi le tue gambe e vai con lo tsunami. Tutti assieme, vai, anche Cruciani. Spruzzare acqua dalla vagina adesso è assai in voga. Stanotte voglio che rimani, spalanchi le tue gambe e vai con lo tsunami. Timidamente io, umidamente tu, squisitamente squirti. Ovazione. Allora, io devo dire una cosa qui adesso. Scriveva oggi sul Corriere della Sera Massimo Gaggi un interessantissimo editoriale sulla nuova guerra digitale. Non possiamo parlare di questo, che non è il digitale, quelle porcherie che pensate voi, il digitale. Sì, io voglio capire una cosa, tu, Parenzo, una parola definitiva su questa la devi dire. Hai mai provato lo squirting? Solo un sì o un no, ti prego, dammi un sì o un no. Perché... Dottore, c'è ancora porcheria in onda, dottore, portale champagne capalbia, dottore. Vabbè ragazzi, allora alzate la mano chi l'ha provato. Donna o uomo che sia, provato. Donna fatto, uomo provato, avanti, alzate le mani, no, non è possibile. Nessuno, tu confermi che ancora tua tu moglie sai non ti... che... No, sì. Mia moglie no. Ancora non è arrivata a questo punto. Ha chiuso i rubinetti forse quando ci siamo messi assieme, non lo so. Però è così. Cioè, Ruggero, dai, non è possibile. Cioè, tu confermi questa cosa, non sei ancora riuscito, ma non nemmeno ci provi. Nonostante le proposte che mi arrivano, ma... Tu non hai... No, le proposte no, perché sei sposato, purtroppo sei fedele a questa mio malattia. Social media manager, cioè, questa malattia della fedeltà. Cioè, sì, è questa malattia, questa specie di perversione della ognuno fedeltà. Ognuno ha le sue perversioni. Sì, assolutamente. Dunque, nessuno qui l'ha provato? Ma chi? Quanti? Alzate le mani, non parlate che non si sente un cazzo. Chi l'ha provato? Alzate le mani. Uno, due, tre, quattro, pochi. Siete vergognosi. Vai. Io voglio Udine, eh? Io sì? Io, tutti vogliamo Udine, vero? Sì! Vai. La vogliamo subito? Subito. Tu sei partita per un grande sogno, diventare designer a New York. Io sono rimasto qui nella provincia, che stupidi capricci non ne ho. A giugno m'hai detto, ritorno a settembre, ma era giugno di 2 anni fa. Non m'hai più chiamato, hai forse vergogna di ammetter che hai fallito? non importa, dai sciocchina. Torna Udine, torna Udine, perdonerò la tua ingenuità. Torna Udine, torna Udine, la tua vita è fatta di semplicità. Torna Udine, un impiego lo si trova se lo vuoi. Torna Udine, il bar è sempre qui che aspetta noi. Poi d'improvviso il tuo squillo inatteso, I'm rich and I love another man. Non ho ben capito, ma il cuore ha tradotto che avessi bisogno di me. Così questa notte prendo l'ultimo treno che da Udine mi porterà a New York. Raggiungerò presto quel parco centrale solo per cantarti così tutti assieme, dai che ci sente, dai! Torna Udine, torna Udine, cosa New York e Udine non ha? Torna Udine, la tua vita è fatta di tranquillità. Torna Udine, chi è quest'uomo qui in mezzo a noi? Torna Udine, vabbè portiamo a Udine anche lui. Ma torna Udine, sulle mani, nannai nannai nannai nannai, finale! Torna Udine, what has New York than Udine, don't have. Anche tu preferisci Udine a New York, vero? No, io avrei cambiato la strofa con torna al sole, capito? Cioè metterei qualche elemento che ci riporta alla Confindustria, cioè, se cosa altro, no? Anche se lui al posto di Udine dice torna al sole 24 ore. No, ma tu sai perché anche i signori della Confindustria amano queste cose, cioè lo squirting, anche l'avvocato Trucco ormai si è piegato, sto guardando la zanzara in streaming e tutto meraviglioso. E cioè che non possiamo fare perché è troppo tardi, è troppo tardi e dobbiamo chiudere, però ti faccio fare il singolo reggaeton ricordando che a ottobre sarò presente 28 ottobre e forse altre cose 28 ottobre al Fabric di Milano, notte a fare questo timida. Grande live della notte timida, caro, saremo Luis. Tutti lì, sì, saremo tu col tutti cazzo lì. Che sarai qui, no, io vengo con Zagrebelsky. No, io voglio con professore. C'è un mio amico che mi dice ti voglio ingaggiare per il mio compleanno, sì amico mio, però comincia a costare caro il signor Ruggero. No, io vengo, quanto no, costa? Mio amico lo vuole ingaggiare per il compleanno, io comincio a fare anche i compleanni. Allora costa, c'è il sovrapprezzo anche. Com'è la nuova canzone? È l'estate del reggaeton. Vai. È più o meno, vediamo se ci riesco a farlo. È l'estate del reggaeton, sulla playa coi racchetton, Despacito dentro l'iPhone, come un gatto attaccato ai marron. Ho l'infradito, la valigia in mano, quest'estate non mi fermerà nessuno. Ma nonostante sia partito di mattina, sono bloccato da 6 ore sulla 1. E anche se sono quasi più vicino a Trento, sento nell'aria già profumo di Salento. Perché comunque vada come vada, questa vacanza non la passo in autostrada. E la radio ci ricorderà che quest'estate qua. Vai con le mani! È l'estate del reggaeton, tira fuori il tuo maxi bon. Sotto l'ombra dell'ombrellon, siente come pompa esta canzone. È l'estate del reggaeton, sulla playa coi racchetton, Despacito dentro l'iPhone, come un gatto attaccato ai marron. Grazie! Grazie Ruggero! Pensavo fosse una cagata, ma non è male questo reggaeton. Si è salvato. Ovviamente a noi ci piace più lo squirting e questa roba è qua. È chiaro, questo però. È chiaro. Grazie a Ruggero De Timidi, grazie. Ciao, a tutti. Grazie. Grazie. Ciao. Allora, ricapitoliamo. Salvare tutti i podcast di giugno e luglio per ascoltarli in loop? Fatto. Mettere gli ultimi remix della corte come suoneria? Fatto. Creare una cartella con le ultime GIF di Cruciani per mandare a fanculo la gente direttamente con quelli? Fatto. Vabbè, raga, a me mi pare di aver preso tutto ciò che mi serve per sopravvivere a sto mese d'astinenza. con tutti i cazzo di soldi che prendete. Vi permettete anche di andare in ferie. Vergogna. E ricominciamo. 27 luglio, caro David. Caro David, la senti? La senti? Beh, che cosa senti? L'odore della fine? L'odore della fine? Sento che domani, amico mio, a quest'ora esatta, mancherà soltanto un'ora alla chiusura della baracca definitiva. Chiude. Ma perché continui? Scende la Claire per sempre, diciamolo definitivamente. No, ho bisogno di prendere un anno sabbatico perché mi avete rotto i co- ho bisogno di passare un anno con Zagrebelsky e basta. Io, Zagrebelsky e il professor Salvatore Setti. Il grande preside della Normandia. Non ne posso più di La Corte, di Poli, di Android Mercù, poverino, che è passato recentemente all'omosessualità. Non ne posso più. Ma chi te l'ha detto? Tutti voi. Ma stai gettando fango? Stai gettando fango, per carità, essere omosessuale va benissimo. Apprezzamenti. A Roma è molto chiacchierato, ne parlano tutti a Roma di Mercù, dell'arrivo di Mercù. Comunque non vi sopporto più di sentire voci, camionisti, ma non per i camionisti, turpiloqui. Cazzi che volano, vibratori, gente che va con uomini e donne, rassemblement che voi chiamate semplicemente festini in cui si scambiano le donne. E allora? Gli uomini. Non ne può una. Chiuso! No, manca un giorno, amici, mi si chiude la baracca finalmente. Questo populismo, queste due ore e mezza di populismo. Che così passa il tempo più veloce. Forse non hai capito bene che siamo stati confermati. Come confermati? Da chi? Siamo stati confermati. Come è possibile che una trasmissione simile venga confermata? Io me lo chiedo a me stesso. Ogni mese, come dire, quando guardo l'estratto conto, dico: beh, meno male, bravi questi amici. Sopporti anche bravissime persone. Mauro Lamanto, sopporto Mauro Lamanto. Ma io mi chiedo: ma come mai è confermato? Ma è un coacervo di populismo schifoso, una roba raccapricciante. Io ho bisogno, ti assicuro, di mesi in cui mi confronto solo con Zagrebelsky. Solo con lui. Ho bisogno di un mese con Zagrebelsky in una casa di campagna, magari a Capalbio, vicino al mare. Sì. Io e Gustavo, io e Zagrebelsky che mi parla della riforma della legge elettorale. Tristezza. Un mese con Zagrebelsky voglio fare, un mese. E un intanto mese. Ti becchi Paola da Brescia, vai Paola. Sentiamo. Caro signor Parenzo, ecco, già la io voce gliel'ho sentita dire un paio di cazzate. Mi sta sui nervi già la voce della signora. Non riesco più a sopportarvi, non so come fare. Non sono arrivato male, alla fine. Perché io non riesco più a sopportare neanche la voce di sta gente io. Se non dico su qualcosa che non ho, ma però una cosa che si assomiglia. Comunque però, ti stavo dicendo italiano, che ieri dice, mi hai fatto venire un nervoso. Sì, perché dopo bene. Che abbiamo fatto una battaglia, tante che persone, battaglia? Per non dare più soldi cosa? A questi a vitalizi assurdi. Brava, brava, non brava. Solo vai all'attacco, vai all'attacco, vai all'attacco dell'uomo della casta. Ma mi dici che soldi vuoi dare ai migranti dopo? Sì, ai migranti, ma il tuo cervello bacato, ecco, dov'è? Io non mi sopporto più, questa te lo giuro. Io non mi sopporto solo. Più sì, non mi sopporto. Tornare agli italiani che ne hanno piena le tasse, di pagare tasse su tasse per queste cose qua. Brava, e brava, in più, brava. Io dico che tu sei un celebro leso. Cosa grazie, signora, questo è brutto, questo è brutto, questo è brutto. Non ce la faccio più a confrontarmi con sta gente, non ce la faccio più anche la voce. Gustavo, cosa fa lei, Gustavo, dove sei? Gustavo, dove sei? Cosa fa Zagrebelsky, dove sei? Ti raggiungo presto a parlare di riforme. Che cosa fa lei nella vita, signora cara? Cosa fa? Di cosa si occupa? Ho fatto per tanti anni la birraiola, ho avuto tante birrerie a Brescia. Bene. È una lavoratrice, capito? Non i pensatori, amici tuoi. Una lavoratrice vera, Paola da Brescia. Ma no, per carità, ma va benissimo. Incazzata, Paola, non so. Ho avuto la birreria 501 e tutti mi conoscono questo, e sa quanto sono persona che ha lavorato di Brescia, e lavoro ancora tutt'oggi. Beh. Ma lavori, certo, è incazzata. Allora è contenta per il fatto che finalmente abbiamo tolto un po' di soldi ai politici. Ma cosa vuoi fare? Finalmente abbiamo è contenta. Però che tu riusciremo, ne? Beh, sì, brava, brava, giusto. Ne, sì, perché parla in bresciano. No, allora bene, dai, non può parlare bresciano? Vuoi parlare ragazzi, solo con quelli che parlano italiano perfetto? No, dai, per carità, su. Dai. Però cerebrolese è brutto, Paolo, ma molto brutto. Ma la signora si qualifica per quel che è. Davanti a certe idiozie mentali. Signora, se ne faccia una ragione. I parlamentari sono diversi da lei e da me. Sono parlamentari, senatori e deputati. Basta. Qualche volta sono peggio. Antonino da Bari, ciao Paola, ti abbraccio, ciao Antonino, vai avanti così Paola, l'attacco, lavora, avanti, lavoratori, dove? Proletari, ombretta da Roma, Daniele, chi c'è? Daniele, Daniele da Modena, vai Daniele. Sì, ci sono, Giuseppe. Vai, dimmi, il miliardario Cruciani con la casa a Piazza di Spagna che difende la birra. Ma ce l'hai tu a Piazza di Spagna? Ce l'ho. Ce l'ha un mio amico una casa a Piazza di Spagna di 400 metri quadrati. C'hai tutta la sede dell'ambasciata spagnola. Ma quando mai sei impazzito? Daniele da Modena, dai. Palazzo pazzesco che hai, fai il falso povero. Dimmi, dimmi. Non me l'aspettavo da te, Giuseppe, devo dire la verità. Ma cosa non ti aspettavi? Questa deriva anarchico-comunista sui comunista, ma comunista non proprio, i comunisti lo appoggiano, il vitalizio alla grande, gli ex comunisti sono tutti là sulle barricate, la politica è una professione, la politica è una cosa seria, va ritribuita, chi ha detto di no? Hanno anarchica, messo, allora, anarchica mi piace di più, hanno messo sullo stesso piano finalmente i politici del passato che hanno depredato, sui vitalizi hanno depredato le casse dello Stato, li hanno messi sullo stesso piano dei cittadini normali e ancora c'è gente che dice no, per carità, non si può intervenire sul passato, la Costituzione, certo, eccetera, dai, chi è, su. Chi è che diceva che l'anarchia è il primo passo per il potere assoluto? Sì, vabbè, adesso non mi mettere sulla filosofia, che cos'hai da rimproverarmi? No, cos'hai da rimproverarmi, Daniele, cos'hai? Sei sempre per le voci fuori dal coro, no? E adesso però ti sei adeguato. Ma, questo lo dici tu. No, lo dici al pensiero tu, dominante, bravo. Perché Cruciani è il pensiero dominante, esattamente. Solo in questo caso, sì, di solito lo stimo per quello che dice, ma qui mi è cascato un po' giù. Ma perché? Che cosa vuoi? Mantenere il vitalizio com'era un privilegio dei parlamentari? Ma vuoi questo? Un privilegio, ma salito, allora sono d'accordo. Ma che vuol dire? Che vuol dire? È una piccola cosa. Che vuol dire? È ancora, perché non è stato approvato definitivamente. È un odioso privilegio. Invece di abolirlo del tutto. Odioso privilegio, sì, odioso privilegio, come cos'è tanti. Questa? Invidia sociale, cos'è? Devi spiegare. Invidia sociale, dai, bravo, su, non dire. Siete, siete veramente. Non alimentare, non alimentare bravo, cosa. Bravissimo, ragazzi, bravissimo. È un privilegio. Sì. Hanno semplicemente tolto un po' di quattrini. Mettendo sullo stesso. Oh, 2000, qualcuno 1000, qualcuno 6. Ma che vittoria è? Che vittoria, cosa che vuol vittoria dire? Ci sono persone che hanno fatto per tutta la vita politica. Diciamo la verità, sono persone che per tutta la vita hanno fatto politica e non sono dei criminali, sono dei servitori dello Stato che hanno fatto politica con orgoglio, nessuno gli ha attaccato manifesti, passando la loro vita delle elezioni di partito a discutere, a elaborare proposte. È una cosa ignobile come vuoi far passare tu e questi quattro coattoni che chiamano, questi, perché sono dei coatti quelli che chiamano, gente che non sa un cazzo. Ma ragazzi, è veramente incredibile. Aridatemi Ruggero dei timidi, guarda, aridatemi Ruggero. Anche tu senti la nostalgia di Ruggero, che è già andato via. Senti la nostalgia di Ruggero, Sento la nostalgia di De André, di Fabrizio De André. Comunque, stai dicendo che Beethoven è meglio di Ruggero dei timidi? Ma no, è un'altra cosa, diciamo. Diego dalla provincia di Catanzaro, dai. Buonasera Parenzo. Vai. Buonasera. Sono un bastardito con quel bastardo di autista che dice che noi siamo come i cani, che mangiamo alle scodelle, che dormiamo nelle cucce. Sì. Ma dormirà lui questo indegno nelle scodelle. Beh, io mangio nei miei ristoranti, sono profumatissimo. Grazie a questo indegno, no, la nostra categoria viene penalizzata proprio per queste crape. Perché vabbè, sarà adesso lui un cane a mangiare le scodelle. Bel capito? Linguaggio, bel dibattito tra camionisti. No, interessante. Ma stai zitto Parenzo, che tu non c'è proprio un cazzo, non capisci niente, stai zitto tu, ignorante. Ma adesso che c'entra, scusa. Ma stai zitto professore, Parenzo, che sei soltanto uno che si con la violenza, stai zitto, mongolo. Ma lei è il preside della normale di Pisa? Scusi, è il preside della normale di Pisa lei? Sì, fai il filosofo di sta mincia, Parenzo, dai, me non per i coglioni. Io volevo dire soltanto linguaggio aulico. Posso parlare. Io questo Diego non mi sopporto più, parli, tanto sono gli ultimi due giorni, parli, io ho una crisi di nervi, non vi sopporto più, voi che telefonate. Vieni qua che te la tolgo io la crisi di nervi, Parenzo, vieni, che te la tolgo io, te la faccio vedere io la crisi di nervi, 18 ore al giorno, vieni che te la pugno io la crisi non di mi nervi, sopporto vieni. Più io però gente non la sopporto un più. Po' c'ha ragione, non questo qua 18 ore al giorno sta sul camion e tu pagato profumatamente. Posso dire che non lo sopporto? Non lo sopporto. Parenzo, che canzoni di così crisi di nervi c'hai? I soldi che devi contare, ah! Mi c'è duro! Che cos'è questo? Dai, non che mi rompere i coglioni, fai il serio, Parenzo, dai, non però, scusami, Diego, adesso oggettivamente tu a brutto muso hai attaccato ecco, Parenzo, appunto. Però in realtà... Senza... Io ho lasciato stare a Parenzo, scusami, io ho lasciato stare a Parenzo, perché lo sento a volte che istiga la violenza, custi, come istiga la violenza? Sì. Perché tu non li sopporti? Parlare con quell'autista che si reputa un autista, no? Sì, ma lascia perché... perdere quello, adesso chi se ne frega. Ma tu non li sopporti i negri? Cosa? I no, non li sopporto io, no. No, no, che hanno fatto? No. Che hanno fatto? Dai, l'hanno fatto. Aspetta, non ti sento, Diego. Aspetta, come? Parenzo, stiamo perdendo questo interessantissimo intervento. Aspetta. Beh, mamma mia, che perdita per Parenzo, l'umanità. Ascolta e fai tesoro di quello che dico, Parenzo. Beh, adesso puoi chiamare anche in privato, poi, capito? Che ti spiego qualcosa per non andare in crisi di nervi. Cioè, comunque questo qua ha ragione. Passa 18 ore al giorno su un camion. Parla 18 ore al giorno su un camion. Non è che per questo e tu hai più... le crisi di nervi? Ma ho detto, ma non è che questi che qui cazzo, hanno dai. Più idee di altri. Cioè, non è che puoi far passare sta gente qui come fosse dei maître pensé. È un questa signore che ha un'opinione. La gente sei tu, hai capito che sei tu la gente. La gente mamma sei mia, tu. La gente capito? Sei tu. E noi la lavoriamo con dignità. Abbiamo moglie ma chi ha mai detto il contrario? Tu l'altra volta siete sporchi, siete ignoranti. Ma non ho mai detto questo. Ma mi sarei mai permesso di dire che siete sporchi. Ma quello lo dice quell'altro di Pescara. Lo dice un collega camionista. Mangia nelle ciotole, mangia nelle ciotole, dorme nella cuccia. Ecco, io voglio parlare. Ma prendi il tuo culo, va fanculo ignorante. Aspetta, tranquillo, devi stare molto calmo. No, la cosa che voglio capire è che ne pensi dei vitalizi dei politici? Questo ecco. È interessante. Dai, sentiamo, sono dei ladri bastardi, no? Sono ladri dei bastardi, questo è il commento. Ladri bastardi. Lo sapevo. Bastardi, vitalizi. Ecco, è un commento alto, nobile. Ma tu ce l'hai la pensione? Senta, la prendi amico, ecco, lo eccita. Senti l'altro che butta la benzina. Quando muoio, Crucià, quando sono nel saluto io la prendo la pensione. In quattro ecco tavole. E capì, Parenzo, che ti piace la crisi di nervi a Dio. E allora, ecco questi qua, in quattro anni, qualcuno prende 1.700 euro dopo quattro anni. Non è una vergogna. Che dici? Che dici? Qual è la tua opinione? Qual pensi? È la tua analisi? Affucilate lo sapevo. Era abbastanza calcolato. Affucilate, lo sapevo. Diego, ti ringrazio per questa opinione. Grazie, buongiorno. Grazie molto, c'è un autorevole, grazie, Parenzo, grazie, affucilate. Ma vai a quel paese che è finita ormai per fortuna. Vai, suca! Ma che c'entra adesso? Non c'entra niente. Perché dai, Parenzo, perché devi dire chiacchiere? È giusto il vitalizio. Un grande dibattito sui vitalizi. Ombretta, sì, ombretta, sono giusti i vitalizi, sono giusti, perché fare il deputato non è fare il criminale, hai capito? Oh. Sei un criminale pure tu che mi hai preso i criminali. Tutto uguale. Ecco. La galera è troppo degna per voi, la galera è troppo degna. Ciao Diego, ti abbraccio Diego. Te lo abbraccio. Ti abbraccio Diego, abbracci. Viva i camion! Viva i camion! Ma che c'entra adesso questo? Questa deriva? Però è un commento, no? Raffaele, finale, Raffaele Caserta. E lui ringrazia tutti poi. Cioè, grazie del suo contributo. Quale cazzo di contributo ha dato? Ha urlato, ha detto parolacce. Affanculo, pezzo di merda! No, grazie del contributo, no, ti attenzione. Abbraccio. Oltre a questo, è stato anche molto chiaro sul vitalizio. Infatti gli ho chiesto in maniera pacata, gli ho chiesto qual è la tua analisi sul vitalizio. Ci ha detto fucilati. Ecco, diciamo che è la sì, scusami però, abbi pazienza. Tu hai dei parlamentari che ogni tanto intervisti nelle tue trasmissioni, noia. Dei 5 Stelle, che però più o meno non dicono cose troppo diverse. Infatti, o sbaglio? Infatti mi pare che io quando anche l'altro giorno con il signor Di Battista, signor Dibba, gliel'ho fatto notare. Dopodiché loro reputano autorevole e giusto il fatto di fare questa ghigliottina, per cui se Raffaele ragazzi, da Caserta, così. chi è questo fate qua? Così. Raffaele, dimmi chi c'è. Ciao ragazzi, siete due figli di puttana, nel senso buono però. Non sappiamo di chi sia figlio lei, guardi, ma lo immaginiamo tutti comunque, andiamo avanti. Prego. Parenzo, ho detto nel senso buono però. E anch'io nel senso buono, non so di chi sia figlio lei. Che lavoro fai tu? Che ci penso? Io faccio il frigorista. Che vuol dire il frigorista, scusa? Lavoro con l'articolato e trasporto frutta... Trasportiamo frutti in tutta Europa, no? L'articolato. Sì. Parenzo lo vuole vedere alle prese con un articolato. Parenzo, se si mangia la banana la domenica a Natale, grazie a noi, capito? Certo. Che volevi dire? Qual è il tuo gusto per esempio? Cosa ne pensi dei vitalizi dei parlamentari? Dimmi. Sì, però Giuseppe, sei un simpaticone, voglio rispondere prima a Parenzo. Sai perché sei un coglione, Parenzo? Quando uno ti apprezza, ti vuole sfottere, nel senso buono, interpreti male le cose. vuol dire che tu veramente sei fatto tutto al contrario. Però ha ragione, adesso lui non ti voleva attaccare, tu subito sei andato lì. Ha fatto una battuta. Io ho detto, vabbè, Raffaele, allora. Perché avete ottenuto quello che volete, avete cacciato un argomento che fa fare un sacco di ascolti. Cioè, quale? E mi avete fottuto pure a me, e ve lo dico. Cioè, quale dici? Giuseppe, tu che sei un intenditore di calcio, ti sento spesso. Un intenditore di calcio. Allora sì, ho capito un'altra cosa. Comunque, ti sento spesso. Voglio fare una scommessa con tutti e due perché mi siete simpatici. Ti do una doppia chance, uno X. Se io mi prendo il 2, come sarebbe? Se quel coglione di Pescara, fammi bene a sentire, Giuseppe, il camionista di Pescara, sì. Se è un camionista, io vi offro una cena a tutti e due. Cioè, tu secondo te non è un camionista? Allora, poi, se non è un camionista e non è gay, io lo stesso ti offro la cena a te a Parenzo. Ma se non è un camionista ed è pure gay, voi me ne offrite due a me. Sì, ma tranquillo, ma tranquillamente, non c'è nessun problema. Ma poi scusa, anche se fosse gay, qual è il problema? Non c'è nessun problema, però parlavo in un modo così, si esprimeva in un modo così affettato, così feroce, così lo senti, perché io vi sento sempre, no? Che secondo me ha avuto qualche fregatura, qualche camionista gliel'ha messo storto o l'ha rifiutato. Vabbè, ho capito, Raffaele, ti saluto, ti abbraccio, ciao, vedremo, scommessa in corso, ciao. Poltrini, scusami, sei una brava ragazza. Poltrini, sei un'amica dei cristiani ed è morta. Intervengano i commessi. Poltrini, ed è morta. Ma invece dei coach per i Rom, perché non diamo una maestra elementare a Razzi? Questo non credo. Grazie, non ci credo che tra pochi giorni chiudete. Sto già in astinenza da questo onanismo puro radiofonico con sangue, sesso e merda. Mi raccomando, tornate presto, perché il popolo della Zanzara, i miserabili e la maggioranza silenziosa hanno bisogno di voi. Allora, caro David, per concludere degnamente questa stagione bisogna richiamare il vero Mario Capanna, il quale oggi ha timidamente, per restare un po' nel tema di Ruggero dei Timidi, detto è una cosa che si ritorcerà contro tutti i pensionati, questa decisione del vitalizio. Lui prende 5.000 euro di vitalizio, fa ricorso per il taglio del 10%, ha già fatto ricorso. Adesso dice tanto la almeno da quello che ho letto, tanto la Corte Costituzionale lo boccerà. Chiamiamo Capanna, il vero Capanna. Eccoci, Marione. Grande combattente, come stai? Bene. Ti saluta moltissimo Gilletti. Come andiamo, Mario? Andiamo bene, ma non mi avrai. No, vabbè, scusa, hai fatto un'intervista al tempo, maledetto, adesso pure a noi la devi fare. Ma che maledetto? Vecchia carogna. Il tempo, perché purtroppo qui non arriva, che Pippato ha scritto. No, ha scritto, tu Pippato, è la premessa per depredare milioni di italiani, così mi sembra corretto, no? È la verità. Ma quale verità? Bravo, su questa ragione Capanna. Spero che quanto prima vengano intaccate le vostre pensioni. Ma no, ma noi non la prenderemo, questo è il problema. Mentre tu già la prendi, noi non la prenderemo. No, ha ragione lui però. Ma tu lo sai che Parenzo ti dà ragione, sì? Sì, ha ragione, su tutta la linea. Perché si getta discredito sulla classe politica. Capanna è una persona per bene, onesta. E quindi non si capisce perché deve essere trattato come un criminale, questo è il punto. Scusami Mario, ma tu che ne pensi di Richetti, dei Grillini, di questi qua che hanno voluto... Ascoltami, io mi meraviglio di come ci siano ancora al mondo giornalisti sì. che si occupano di queste fregnacce sì. anziché delle grandi questioni. Continuiamo a comprare sì. gli F-35, i famosi sì. aerei da combattimento cioè, di cui sì. ce ne facciamo una pippa. E allora? No, ma la gente, ma sì. la gente, ammanniamo la, la focaccia di Cerbero dei vitalizi, capite? Bellissimo. Questa è la roba focaccia assurda, no? Cerbero, scusa Mario, Mario, io posso anche essere d'accordo sul fatto che non è una ecco. grande cosa quella dei vitalizi, su questo posso anche darti ragione, però amico mio, si può brindare al fatto che una piccola quota di un privilegio viene annullata? Sì o no? No, primo perché non è un privilegio. Ah no? No, no ragazzi, bisogna capire. Allora, perché il vitalizio si chiama vitalizio e non pensione? Domanda, risposta, ditemelo. Ma ragazzi, ma non lo sì. so, ma non però è importante. Ditemelo. Perché è una cosa riservata alla classe politica, mi sembra evidente, no? Cioè, per quello, perché è una cosa che è stata riservata, che la classe politica sia autoattribuita. Ma va bene, non viene no, annullato, no, viene riportato no, allo stesso no, livello Cruciani, dei cittadini. Cruciani, Cruciani, perché? Non perché? Ne sei informato. Perché, dimmi? Allora, se ne discusse persino all'interno della Costituente. E vabbè, sono passati 60 beh, vabbè, anni. Quello però, che c'entra? I parlamentari sì. devono essere messi nella condizione certo. di assoluta autonomia, indipendenza e libertà. Bra- quindi non suscettibili bello, da nessun bello. Condizionamento economico, ricatto sì. Sì. da forze... finanziarie, sì. economiche e di cosa valenza. Che è avvenuta lo stesso ecco come perché, sai ecco cosa perché. Che è avvenuta lo stesso come sai no ecco perché è stata creata questo istituto che si chiama appunto vitalizio un privilegio per garantire quindi che anche nel prosieguo della vita dopo l'attività parlamentare non ci fossero condizionamenti. Ma che c'entra dopo la vita dopo l'attività ergo, parlamentare ergo, ritenere che un parlamentare della Repubblica sì. quindi un legislatore sì. Sì. sia un semplice impiegato d'ufficio come qualunque altro beh. È una roba che solo dei mentecatti politici come Richetti possono pensare no? Però scusami, hanno fatto una cosa egregia caro Mario, hanno equiparato hanno riportato all'ordine una cosa che era chiaramente una cosa da privilegio, perché tu versi dei soldi, se un cittadino normale versa quei soldi prende molto meno, gente che va dopo 5 anni in pensione a prendere un tot e tu stesso prendi una cifra. Guarda che il metodo retributivo è in vigore per milioni di pensionati prima della Fornero. No? Male. Giustissimo invece, giustissimo. Ah, il metodo retributivo è giusto, secondo parametrata, te? Parametrata sull'ultimo stipendio. Ma è una follia, cioè. Ma se andremo in bancarotta così, saremmo andati in bancarotta. Questo è un po' vero. Non si era mai visto un provvedimento di legge addirittura retroattivo. E vabbè, questo lo deciderà la Corte Costituzionale. Quando anche passasse al Senato, che è tutto da vedere, allora? Vedrà la Corte Costituzionale, come dire, buttarla via di corsa. Ma questo lo farai decidere la Corte Costituzionale? Comunque, i grillini ieri hanno brindato a champagne, hai visto, no? Alla Camera. Hanno fatto benissimo, perché? Perché la tragedia della stupidaggine è tutta del PD. Nel senso che è evidente che, facendo questo provvedimento di quello simunito di giacchetti sì. portano semplicemente acqua ai 5 Stelle. Io direi che hanno fatto anche Giletti ha dato un suo contributo. Giletti ha dato un suo contributo a tutto ciò, o no? Secondo te? Ha fatto una trasmissione cialtronesca, la quale non a caso è stato multato dalla Rai per 25.000 euro. E poi ma gliel'hanno chiusa, una cosa vergognosa. Hanno chiuso una trasmissione di grandissimo successo, bellissima. Scusa, questo non puoi esultare. Non coincide con la serietà. Era una trasmissione cialtronesca e urlata. Ma... E non dico che la Rai ha fatto bene a chiudere. Beh, non lo stai dicendo, come no? No. Come no? Lo stai dicendo. Dovresti chiedere scusa a Giletti per quello che hai detto. Non credo che manchi a milioni di persone. Ma come no? Mancherà 4 milioni di ascoltatori. Allora io attendo con gioia il momento in cui mi telefonate per fare con voi un'ora di discussione. Sì, un'ora. Il fatto che l'1% dell'umanità possiede da solo più del 90% delle ricchezze. E ci sei anche tu là in mezzo, però. Fai parte del privilegio, tu. Fai parte dei privilegiati. Che le pensioni, che la metà dei pensionati italiani vive con meno di 1.000 euro al mese. Sì, ma tu vivi con 5.000. Ma noi abbiamo le spese militari, naturalmente. Ma tu vivi con 5.000 euro netti al mese. Quanti te ne tolgono a te? Sì. Quanti te ne tolgono di questi 5.000? Non lo so, ma non me ne preoccupo minimamente. Perché non ti preoccupi? Scusa, primo perché non passerà al Senato. Secondo perché ci sarà la Corte Costituzionale che dice ma siete matti. Io suggerirei una cosa, caro Mario. In segno di protesta dovremmo fare una occupazione anche semplicemente simbolica di un paio di giorni del Parlamento, fare lì convocare una grande assemblea popolare davanti al Parlamento, come si faceva ai bei tempi, è l'unica. Beh, se la promuovi io ci posso pensare. Ma bellissimo, come ci vuoi pensare? Bellissimo. Ma dai, mi prendi in parola, promuovetela che io ci vengo. 5.000 netti al mese, 5.000 netti. Ma che cacchio è il problema? problema, ma qual è il problema? Ma che ci fai con questi 5.000? Non ti preoccupi dei 25 milioni di cattaneo che esce da te. No, l'ho detto. Sono privati però, quelli sono soldi privati però. Sono allora, dei privati. Come ti dicevo una volta, andate a lavorare, dai. Ma che ci fai con questi soldi alla fine tu, con questi 5.000? Lo uso per il volontariato. Cioè lo dai in beneficenza, il resto? Aiuto, attività, come dire, di carattere sociale, umanitario, scientifico e di ricerca. Sì, però, amico mio, non c'entra niente, sono sempre soldi. Cioè la fondazione che tu hai, la tua fondazione? Anche, ovviamente. Vabbè, anche tu la usi per la tua fondazione. Ma è tua la fondazione, però, scusa. Certo. Ragazzi, però, dai. No, ha ragione. Ragazzi, però, la cosa è questa. Perché il 90% degli italiani è dalla parte mia, Mario, su questa cosa dell'abolizione della riduzione degli oclocrati. Mi spieghi perché il 90%... Per una semplicissima ragione. Perché? Grazie al giornalismo tipo il vostro, sì, è invaso il principio, sì, tutti felici nella merda. Per cui il problema non è di alzare le pensioni minime, ma di abbassare quelle lievemente più alte. E certo. Quindi questo rincretinimento di massa l'avete prodotto voi, i vari Giletti. Per colpa dei vitalizi gli hanno chiuso la trasmissione. Dovresti chiedere scusa a Giletti. Io? Sì. E che c'entro? Sì, anche per colpa tua hanno chiuso la trasmissione. Non per colpa mia, per colpa sua, che ha dovuto pagare una multa di 25.000 euro. Ma non potete rovesciare la realtà. No, tu sei quasi contento, anzi sei contento che gli hanno chiuso la trasmissione. E questo è il punto. Cioè, mi sono rammaricato che la multa sia fosse così bassa. Addirittura. Doveva essere un minimo di 50.000 euro. Ma per scusami, come si è comportato. Mario, scusami un attimo. Il povero Giletti adesso gli hanno tolto una trasmissione. Eh sì, pazzesco. Cavoli suoi, sopravviverà lo stesso, immagino. Ma è indegno, come cavoli suoi, è indegno. 4 milioni di persone, la RAI... Lotti, occupi la RAI, no? Faccia come me. Giletti dice, mi avete tolto la trasmissione, occupo la RAI. Ciao Mario, ciao. Allora, il vostro programma, tra parolacce, cazzo, vaffanculo, innanzitutto è di basso livello. La radio la fai tu, sei tu il fenomeno. Ti vogliono un fenomeno. Fenomeno. Ti vogliono un fenomeno. Fenomeno, io non ho capito una cosa, ma che c'entra? Fenomeno sarai tu che guadagnerai 3-4 mila euro al mese, non io. Siete dei volgari e ignoranti. Questo è arrivato lui, Ivan. Non è sbagliato. È arrivato il censore, Ivan. Frate, fammi fare il fenomeno. Fenomeno. Vergognatevi! La zanzara. È l'estate del reggaeton, tira fuori il tuo maxi bon. Sotto l'ombra dell'ombrellon, siete come pompa questa canzone. È l'estate del reggaeton, sulla playa coi racchetton. Despacito dentro l'iPhone, come un gatto da caffè marron. Allora, vacanza a Nardò, provincia di Lecce, campi di ulivi neri sfruttati, ammassati nelle tende, sottopagati, sfruttati. Ma che cazzo ne sai tu, Cruciani, dal tuo attico di Milano, che cazzo ne sai? Come quell'altro coglione di Parenzo, dei villoni ai parioli. Mandata a fare in culo. Carissimo Giuseppe, il fatto di appartenere alla brigata partenopea della maggioranza silenziosa mi impone un certo linguaggio. Però ti voglio dire, tu non puoi limitarti a dire è il San che si deve scusare dopo che ci hai massacrato per una settimana intera. Dovresti scusarti anche tu. Allora, serenamente, pacatamente, amichevolmente, ti mando a fare in culo. Allora ragazzi, sono reduce da questo live con Ruggero dei Timidi, da Capanna, da ascoltatori, mi hanno anche lasciato una brocca di vetro, Parenzo per te te la darò, so che ci mi stai ascoltando con la cuffietta anche se sei in diretta alla 7, una brocca di vetro dove mettere l'acqua, ho con me un amico Guido Bagatta, ciao Guido, siamo buonasera, qui. Buonasera a tutti. Allora, caro Guido, innanzitutto mi devi dire cosa ne pensi di Ruggero dei Timidi, del signor Ruggero, tu è per diventato esempio, il mio idolo. Addirittura, anche tu hai il mito di Ruggero. L'estate di reggaeton è il tormentone. È arrivato un po' tardi, è arrivato un po' lungo rispetto agli altri, ma tipo l'esercito dei selfie piuttosto che... Despacito, Despacito non per conta, mi fa volare, impallidiscono in confronto a appunto l'estate del reggaeton. Allora ragazzi, io andrei però con un tipo da zanzara perché dopo vi voglio parlare di marijuana, vi voglio parlare di droga con Guido e con il suo romanzo, di droga, tipi da zanzara, vai. Tipi da zanzara. Fabio da Cremona, vai Fabio. Allora, quel coglione che ha fatto il mestiere pure stasera. Sì. Che cazzo lo fa? Io sto lavorando per me, che fa? Fra 2 anni vado in pensione, mi devo morire perché lui. Ma che cazzo dici sto stronzo? Non ho capito, io già sono vecchio, sono andato nel 62, dove sto spaziando un po', programmi, che fa? Fra 1 anno, 2 anni vado in pensione, mi devo morire perché da a lui o a altra gente. Ma cazzo, che c'ha su destra? Le vecchie queste, io non ho capito. Boh. Ti piacerebbe se te lo mettessi in onda faccia a faccia? Ma cazzo, per me è differente, chi cazzo lo pensa? Problema, mettiamolo in bacio. Aspetta, eccolo qua, Roberto. Sì, ciao. Roberto, sì. Aspetta, Fabio, ti vuole parlare Fabio. Fabio, hai qualcosa da dire? Tu sei quel modenese che ha detto quella cazzata ieri sera, anche stasera? Sì. Quando ci arrivi tu, da tuo capo che fai? Ti ammazzi da solo? Ma sì, mi autosuicido. Ma che cazzo dici? Ma tu non ci stai, ma tu non ci stai con la testa. Tu non ci stai con la testa. Io ho 62 anni, mi sono sfasciato il culo sopra il camion. Fra un anno vado in pensione, devo morire perché ero fastidio a te, alla testa di cazzo che stai in giro. Ma che dici? Ho detto, ti devi godere ancora 14-15 anni della tua vita. Pagare quello che avete fatto negli anni scorsi del debito pubblico che avete pagato voi. Pagate il debito pubblico. Io vado in pensione e voglio campare fino a quando cazzo mi paga a campa Cristo, perché mi devo ammazzare? Ma che dici? Ma chi stai sulla testa tu? Le pigni che c'hai? Fabio, ascolta, tu in quegli anni lì, negli anni 80-90, avrai votato dei partiti che hanno aumentato il debito pubblico. No, io ho 50 anni che non voto io. È 45 anni, 50 anni che non voto io, gli vado in culo a chi dà il voto, a sti magnacci. Là tutti quanti uguali, bianchi, neri, rossi, verdi, ma che cazzo dici? Ma che perché ti pare che muoio i grillini? Sono cose che avete combinato voi in quegli anni lì. Il debito pubblico non l'ho fatto io, l'avete fatto voi. E adesso volete anche andare all'estero ad abitare. Ma io non vado all'estero un cazzo di niente. Io ho il mare vicino a me. Che cazzo vado all'estero? Che me ne frega a me? Quando sono morto io non si possa trovare più. Anche il resto vengono a vedere le pecore. Ma che dici tu? Che me ne frega a me? Io non c'entro niente. Fango cruciale, ma poi chiama la gente che dice non so niente di puttane. Io ci vado 3 volte a settimana a puttane, io non messo i coglioni. Ma perché vai 3 volte a settimana a puttane? Scusa, non ho capito. Perché mi tiro, vado 3 volte. No, la moglie non ce l'ho, faccio quello che cazzo mi pare. Se mi fa la puttana, mi fa la sega a me, le pago io. A casa se mi arriva io ci faccio 4 risate, ne capito tu? Ma no, come non ti faccio risentire? Ma no, ieri sera che stai a dire che vuoi ammazzare i vecchi, ma che dici? Ma che fa, te ne mangio la parola? Io ho detto decurtare la pensione, che i vecchi muoiano. Appunto, speri che i vecchi muoiano. Perché 40 anni sopra il camion vanno a prendere 1200 euro, che cazzo vuoi decurtare? Un becille. Troppo 3 volte a settimana, te lo posso dire. Ma che 2, 3, dipende quello che come mi sento, non c'ho il problema. Col camion, con l'appartamento, faccio che cazzo mi pare, io non ce l'ho la moglie, faccio come cazzo. Ma che, mi pare. Che ne pensi dei migranti tu? Io affonderei tutti i barconi al largo prima che vieni. E i rom? I rom peggio, lasciamo perdere. Che fai con i rom? Niente, che cazzo, io non so bisogno di ammazzare la gente, però quando è troppo è troppo. Quando è troppo è troppo, certo. L'ultima volta che sei andato a puttane quando è stato? Avanti ieri. A Binasco. Quanto paghi di solito? Binasco, il solito posto. Quanto paghi di solito? 30 euro. Ciao Fabio, mi raccomando. Weekend vado al night, non vado a puttane. Ciao. Tipi da zanzara. Persino Bagatta rideva di fronte a questo grandissimo. Tu hai lì e sei, oltre a Ruggero De Tibi, il tuo idolo è quello che dice che bisogna che i vecchi vanno ammazzati. Non per quello che dice, ma per come lo dice, perché è talmente folle. Tra l'altro, scusami, Binasco è alle porte di dove è ambientato il libro, perché lì è tra Binasco e nella bassa, tra Binasco. Libro che si chiama Pensione Maria. Pensione Maria. Però, a proposito di questo, Guido Bagatta, Pensione Maria, Cairo, il signor Parenzo, prima di lasciarci, ti ha lasciato un piccolo messaggio. Poi mi racconti un po' il plot di questo libro, che è un libro fortemente antiproibizionista, caro Gasparri, caro Giovanardi, un libro fortemente a favore della legalizzazione del marijuana, perché racconta la storia anche drammatica di due anziani che a un certo punto, rimasti disoccupati per vari motivi o comunque rimasti quasi in mutande, si mettono a piantare la marijuana. Messaggio di Parenzo a Bagatta. Beh, caro Bagatta, ancora complimenti, perché mi giungono qui da Roma delle novità clamorose. Intanto hai fatto questo meraviglioso libro, che ovviamente non ho letto, ma insomma il fatto che tu lo abbia fatto con il nostro grande editore Cairo mi fa solo che piacere. Un libro sulla marijuana, peraltro, di grandissimo interesse, quindi ottimo. Poi ancora un secondo complimento, perché ti accompagni sempre con quella splendida ragazza giovanissima, e visto che tu insomma sei una persona di una certa età e con una certa esperienza, ti fa semplicemente onore. Quindi, caro Bagatta, insomma, ti voglio mandare un grande saluto, un abbraccio affettuosissimo, perché sei un modello alla fine, cioè sei un punto di riferimento sia per la scelta dell'editore con cui hai voluto pubblicare questo libro, lo dico come sai senza alcun conflitto di interessi palese, e sia per questa scelta di questa giovane ragazza, che appunto a cui piace il De Senectute, come direbbe il grande Seneca o Cicerone, non mi ricordo, se me ne frega niente, tanto qui è uguale alla Zanzara, che cazzo ti leggi Seneca, Cicerone, e ne frega niente a nessuno, perché non sanno niente. Rimane però questo grande giallo da risolvere, perché il signor Roncato, il grande intellettuale Roncato, dice che a lui è sempre piaciuto, come dire, fare sesso, e dice soltanto una persona è più amante del genere di lui, e ha citato lei, caro Bagatta. Ora capisco che le attuali condizioni in cui lei si trova, cioè fidanzato con questa giovanissima ragazza, la possono mettere nella condizione di non confermare direttamente, però almeno ci potrebbe aiutare a risolvere questo giallo. Cioè lei è più tombeur de femme rispetto a Roncato? Questo è un grande dilemma. Siccome chiudiamo la Zanzara, per fortuna domani si chiude tutto, chiude la Claire, vorremmo risolvere questo giallo. Grande Bagatta. Allora, a questo proposito, caro Guido, ti faccio sentire quello che disse, ma lo sai, il signor signor Roncato qualche settimana fa qui alla Zanzara. Bagatti è un famoso trombatore. Vedi? Cosa dice? Una persona fedelissima, sta con una ragazza straordinaria. Ma che dice, Roncato? Ma quando che dice? Tu vedevi una che ti fregava, ti diceva una scusa per non uscire con te, dicevi qui Bagatta Cicova. Allora, vogliamo risolvere questo dilemma o no? Intanto fermi, gli ascoltatori devono rimanere fermi, che mi accompagnerà non più Parenzo in questi ultimi 10 minuti a combattere con voi, ma il signor Bagatta, che lo voglio, voglio che si sporchi un po' le mani, è abituato perché conosce le radio americane, voglio che si sporchi le mani con gli ascoltatori, col sangue e merda. Allora però risolviamo prima questo dilemma, è vero o no che tu prima naturalmente del fidanzamento, prima delle cose... Intanto Roncato si riferisce agli anni 80, veramente 80, quando tutti eravamo più giovani e vigorosi, e poi no, assolutamente no. Io avevo, avevo un vantaggio, e lo sa anche il mitico Silvione. Io andavo alla deriva, nel senso che loro prendevano. Berlusconi? Sì, che era sempre presente negli studi allora, perché gli anni 80 lui viveva la televisione, allora? E quelli famosi, cioè Roncato e tutti gli altri, catturavano, e poi verso mezzanotte mollavano, e noi giovani recuperavamo il mollato. Ma che c'entra Silvione in tutto questo? Silvio era presente, Silvio Berlusconi era sul pezzo, era in televisione. E in che modo? No, in studio lui seguiva. Il grande successo di Berlusconi, che ha seguito sempre tutte le sue trasmissioni, era sempre dietro le quinte a dare consigli. È lì che ha fatto la differenza. Perché e altri donne, editori, come si comportava all'epoca? In maniera... Lui è sempre stato un grandissimo signore con le donne. Poi quello che ci faceva non lo so, però un grandissimo signore. Il più grande uomo, diciamo, del passato, corteggiatore, sapeva tutto, cioè sapeva dire la parola giusta a ogni donna diversa. Ma quante se ne faceva là? Io non lo so. Lo sai benissimo, ma non lo vuoi dire. Ma assolutamente non lo so. Ma che vai, Roncato, ha ragione o no a dire che tu se c'era una sicuramente finivano le tue grinfie? No, dipende da cosa voleva dire. Cioè in tutto, adesso qualcuno ha fatto spesso un calcolo, no? Cassano dice che si è trombato 700 donne, altri hanno fatto dei calcoli. Tu, nei tempi d'oro, a quanto sei arrivato? Nei tempi d'oro quando? Cioè, anni 80? Nella tua vita, a quanto sei arrivato? Sarà arrivato a 200, sicuro? In totale della mia vita, sì. 200? Beh, nel totale, 200? Ho 57 anni. Ma 200? C'ho 57, no, facciamo il calcolo. Ho sbagliato il calcolo. 200, no, tra l'altro da 4 anni e mezzo, e tu lo sai perché mi frequenti, io sono assolutamente la persona più fedele al mondo. Anche perché sarei idiota a non essere. Che il tristezza. Però purtroppo percorro. Allora, in un minuto Guido Bagatta vi lancia il plot del suo libro, che è un libro di grandissima attualità. Non lo dico perché amico mio, se non l'avrei invitato. Però è una cosa che riguarda due vecchi e la marijuana. Che vuol dire? Piera e Celestino sono due vecchi, una rovinata dai bond e rovinata anche dal fatto che chiude il suo negozio, senza che lei lo sappia. L'altro è un esodato della Fornero, si trovano praticamente a zero lire, il figlio gli ruba anche gli ultimi soldi. Storia vera. È, diciamo, ispirata a una storia. No, allora, la storia di due anziani, sì, tutto il resto è romanzo, è tutto intorno. Si trovano senza soldi, lei lavora di notte, ripulisce le celle del carcere di Ropera, lì trova una detenuta che è dentro per spaccio che le dà questa idea. Da lì cominciano, prima comprano in Olanda la materia prima, perché non è che dalla mattina alla sera puoi cominciare a coltivare, poi essendo residenti in una piccola cascina dalle parti binascoli dell'Odigiano, no, ci sono anche, c'è anche l'aria molto umida, quindi la Maria, come ad Amsterdam, cresce molto bene, si accorgono che possono diventare i re dello spaccio leggero di Milano e quindi grazie a questa detenuta che dà loro un librettino con i numeri di telefono, i codici, cioè i nomi in codici di tutti i clienti che lei aveva prima di essere arrestata, tipo Bond, Schumacher piuttosto che Pizzino, tutti i nomi inventati, dietro però ai quali si nascondono i clienti alla Milano Bene, diventano ricchissimi, guadagnano anche 3.000 euro a sera. E non diciamo il finale, naturalmente. No, non diciamo il finale perché la curiosità deve rimanere un po' lì. Allora, ragazzi, andiamo un po' con gli ascoltatori. Vai, Francesco da Roma, vai, Francesco, vai. Come ci sono? Vai, vai, Francesco. No, finalmente sono intervenuto, Cruciani. Che c'è, dimmi, amico. Mamma mia, sulla cosa di prima sono in disaccordo. Sulla cosa di sul che? Papiro che hai letto prima. Sulla masturbazione, dici? Sì, assolutamente sì, sono ragazzo e. Quello di che sta società di questi ragazzi che stanno diventando proprio degli automi. Cioè, in che senso? Non ho capito. Ma degli automi, cioè tutti solo vogliamo solo piacere, no? Però poi allora? non diventano dei super uomini, diciamo. No, ma non ho capito niente, Francesco, però cerca di essere più chiaro. Io ho letto prima una roba di un gruppo ultracattolico contro la masturbazione. Allora, consigli utili per combattere il desiderio di masturbazione. Allora, io no, per no, me cattolici. Non c'è alcun motivo di combattere il desiderio di masturbazione, no, è evidente. No, i cattolici nei gulag proprio, guarda, vabbè, tranquillo. Nei gulag no, è meglio di no, nei gulag i cattolici però... ce li mandavano gli antichi romani a un certo punto. Cioè vabbè, nei gulag, per cui vorrei ritornare, diciamo, a quell'epoca. No, vorresti però, tornare alle pigne nel cervello che c'hai. Cioè al fatto che c'è il cervello in pappa se pensi che i cattolici debbano andare nei gulag, ognuno esprime le proprie opinioni, bisogna combattere secondo me questi estremismi. Però così teniamo in catene le persone, però da un certo punto di vista. Ma tu quante seghe ti fai? La cosa fondamentale, quante seghe ti fai tu al giorno? Abbastanza, però cioè, abbastanza dire, che significa? Si sente anche dalla voce, una voce di sfa, due seghe al giorno. Una roba incredibile, ragazzi. Due seghe al capito. Giorno. E quanto dovrebbe? Ma non lo so, due seghe al giorno, ma va benissimo, forse due seghe al giorno si può sopportare, non lo so. Cioè... Però secondo me andrebbero abbassate perché è troppa dopamina. Cosa dopamina? La seghe. Lo so, c'è troppa dopamina, poi diventiamo tutti... Cioè, professor Bagatta, che stava dicendo? No, che appunto bisogna abbassare un attimo il livello perché poi la dopamina fa male, nel senso vedi, che... Vedi. E questo è, però ricordiamoci che adesso c'è YouPorn, ai nostri tempi, quelli di Andrea Roncato, c'era le ore mese, quindi la masturbazione era assolutamente pari ad oggi, cambia il mezzo ma alla fine è lo stesso. Anche chi tromba come un matto, alla fine adora la masturbazione, perché proprio trombare ti porta in realtà a masturbarti su quello che hai fatto, questo è il punto. Certo, bisogna essere un po' perversi, oppure chiaro. Pensi quello che non potrai mai fare con chi stai appunto trombando e ti immagini altre cose. Esatto. È comunque una roba che è bisogna... un paradiso, il tuo piccolo angolo di paradiso. A meno che tu non voglia affidarti a Dio, può capitare che nonostante la volontà di non masturbarti tu possa cadere in tentazioni. In questo caso chiedi perdono a Dio e poi offri il tuo spirito a Lui nutrendolo con la preghiera. Maurizio da Brescia, vai Maurizio, dimmi. Ciao Beppe. Tanto vi devo dire che signora Bagatta, non capisco cosa voglia fare nella vita, nel futuro, cioè nel senso che ha 57 anni, come vedete, ed è diventato da poco il presidente di una squadra di pallacanestro anche importante nel passato, cioè nel recentissimo passato, che si chiama Mensana, che è la squadra di Siena, lui è senese, ma siccome fa 100 cose insieme, non capisco, c'è una cosa che vuoi fare nella vita futura, dato che sei comunque un personaggio conosciuto, hai fatto un sacco di cose in televisione. Io credo di fare. Che vuoi fare? Tutto quello che sto facendo. Io ma mi tu, ma vuoi, fare... c'è una cosa che vuoi fare? Insomma, hai fatto tutto, hai fatto il presidente, adesso il presidente di una squadra di pallacanestro, hai lavorato con Gardini nel Messaggero Roma, hai fatto il Playboy, Real TV, hai fatto Real TV, hai fatto il commentatore di sport americani, hai fatto un sacco di roba, ma che vuoi ancora, che c'è da fare? Tantissimo. Ma cosa vuoi, una cosa che vorresti fare, presentare Sanremo, rivincere lo scudetto con Siena di basket, in tre anni rivincere lo scudetto. Cioè tu mi stai dicendo che in tre anni punti a vincere lo scudetto? La Sound Reef in tre anni potrebbe anche arrivare, su. Triennio. Maurizio da Brescia, vai Maurizio. Ciao Beppe, sono il tritatore di caviglie. Dove sei? Che sei? Il tritatore di caviglie. E che cos'è il tritatore di caviglie? Ma dai, che ci siamo già sentiti, porca miseria, te lo dico io chi è. Tu amavi i piedi e lui amava le caviglie. Ah, vabbè, sì, ce ne sono parecchie adesso, non è solo Maurizio. Non ti ricordi, ci siamo sentiti esattamente un mese fa. Vabbè, no? Allora Maurizio, dimmi tesoro, allora, dimmi. Allora, volevo dire che ho goduto lunedì quando quella donna, quella maestrina... di nome Raffaella ha schienato completamente quel fallocefalo di Parenzo, me la sono goduta. Come fallocefalo? Non si chiamava Caterina, non si chiamava Caterina, si chiamava Fiorella. L'ha ucciso, massacrato. Ma perché godi così tanto quando schienano Parenzo, perché quando massacrano Parenzo? Quando è venuto al mondo l'hanno tirato fuori con una tenaglia dalla lingua, perché è il più grande leccaculo che ci sia sulla terra, una roba incredibile. Vabbè, adesso non c'è, non ti può rispondere, per cui è inutile. No, ma tanto gliel'avevo già detto l'altra volta, non so, allora, gli avevo detto che mi vuoi dire stavolta? Dimmi. Niente, dimmi. Volevo dire che anch'io che è una roba schifosa con i vitalisti. È una roba vergognosa. Oppure Bagatta, perché per esempio, che certamente non è uno grillino populista, pensa che i vitalizi siano una follia. Cioè, ma è normale che cose. È assolutamente normale. Ma io sono apolitico, non me ne frega niente della politica, ma non esiste proprio. Cioè, ma stiamo scherzando? A mio parere andrebbero aboliti. Però diciamo che in questo momento hanno fatto un'operazione anche per una serie di circostanze favorevoli. Cioè, i grillini che spingono, il PD che ci sono le elezioni e deve fare una cosa. Hanno approvato una cosa che magari non passerà al Senato, ma farebbero un regalo ai 5 Stelle, che mette sullo stesso piano i cittadini e i deputati. Cioè i deputati, quelli del passato, prenderanno con una decurtazione gli stessi soldi con lo stesso metodo che utilizzano i cittadini normali. Certo. Che dici, Guido? Allora, l'unica cosa da dire è che i politici veramente sanno di marketing come io di cucina cinese, perché è la cosa, dovrebbero dire tutti benissimo, è la cosa migliore in questo momento, e si oppongono come nessuno va da Matrice, come nessuno si occupa il marketing, almeno visto che non lo fate col cuore, fatelo col cervello. E invece niente, è imbarazzante, niente di niente. Io rabbrividisco, ho detto prima Brunetta, mi ha fatto rabbrividire. Roberto dalla provincia di Savona, vai Roberto. Dimmi Roberto, dimmi. Giuseppe. Vai, dimmi caro. Eccomi qua, ciao, sono Roberto il Bagnino, di Noli. Grande, ciao. Roberto. Di Noli. Di Noli, venivo a fare l'enolesia, Dio. Grande Guido Bagatta, il mio idolo della gioventù. Mi io venivo della gioventù, non è che facevi, 80 anni. Già. Aspetta, ti racconto questo aneddoto. Ascolta, allora c'era l'enolesiadi, che ero l'Olimpiadi della costa, diciamo, anche di Ponente. Anche là, venivo acquistato da Noli, io nuotavo a Santa Margherita, mi acquistavano con l'albergo, mi davano da mangiare, io venivo e nuotavo e ho vinto l'enolesiadi. Puoi testimoniare che esisteva l'enolesia? Sì, esistevano, e tra l'altro qui lasciate il segno, non vorrei dire, ma questo, lasciamo perdere. Cioè, in che senso? Non lo pensa... interessante. No, che vuol dire che ha lasciato il segno? Spiegami. No, perché adesso lui fa tutto il precisino con me. Poi in realtà è più uno dei più grandi, uno dei più grandi trombatori. Poi sempre un po' di classe, sempre un po' di nascosto, sempre un po' così avendo... poi è sempre là sul pezzo. Ma sai cos'è il discorso, Giuseppe? Perché tutti additano sempre Parenzo, la storia di Napoli, eccetera, eccetera. Ma invece qui abbiamo Bagatta presente e tanto di cappello, ma qui il ricordo è vivido vero, ma è chiaro, tutte le milf della zona e anche più giovani se lo ricordano, però ragazzi sicuramente. Comunque io ho chiamato per dirti un'altra cosa. Allora io ho sentito Capanna prima, no? Quando ti ho chiamato ho sempre raccontato un po' storie mie un po' più spinte, ma questa volta Capanna mi ha fatto capire che io ho perso la verginità con la persona sbagliata. Cioè? Nel senso, io ho votato lui. Quanti anni c'hai? 46 anni? sei anni. Ma io non c'era più democrazia. Io, no, io ho votato lui, me lo ricordo benissimo, perché poi ho seguito. Hai votato Villaggio, all'epoca Villaggio si candidò con... Ma io non mi ricordo, io ho votato comunque Democrazia Proletaria. Ora sentire lui, Mario, che dice queste cose qua. Mario. Ti giuro, mi viene veramente, mi accappò. Oh, Mario Capanna, che protegge mille euro di vitalizio, di persone abbarbicate alle poltrone, a privilegi superati dal mondo, a me mi fa orrore una cosa del genere. Non posso dire, mi fa orrore tutti i discorsi che fanno sull'autonomia della politica. Se lo ricordano queste cose qui, se le ricordo, l'autonomia della politica, sono tutti innanzitutto al guinzaglio di qualcuno, spesso, non tutti ma la maggior parte, e poi a un certo punto riscoprono l'autonomia della politica. Ma dai, su, ciao Roberto, ciao. Crucia, ma niente fosse pure ricchione. Ma chi io? Non lo so, ma non me ne vergognerei. Però ragazzi, prima di chiudere vi voglio far sentire Fusaro, la super cazzola fusariana. Vai con Fusaro, l'ultima super cazzola del filosofo, vai. Che fingiamo di voler accogliere e integrare, che in realtà utilizziamo come i nuovi schiavi, come l'esercito industriale di riserva dei nuovi sfruttati, in nome di un paradigma Boldrini-Dixit che diventerà presto o tardi il paradigma e il nuovo lifestyle dell'uomo occidentale, migrante sradicato, delocalizzato, permanentemente condannato all'erranza diasporica globale. L'erranza diasporica globale. Ecco, però a Prodi Fusaro l'ho incontrato alla gabbia, sì. Ed è cresciuto con Real TV. Fusaro mi ha detto. Fusaro mi ha detto che era. Ha lui detto per le carte. No, non l'ha mai visto in vita mia. Eravamo seduti vicino e lui ha apprezzato. E quindi devo dire che Real TV. No, come poi devo dici, dire che è una super cazzola incomprensibile. Tant'è che persino Librandi, che è lì, che era lì a ospite insieme a lui, dice: amico mio, io non ci ho capito un cazzo in quello che hai detto. I giovani oggi hanno l'immaginario mutilo da ogni politica, sono dei ideologizzati, ma meno male, mi stupirei perché... se fosse d'accordo. No, infatti, scusatemi. A parte che non si capisce niente, ma perché è così aulico il suo discorso che noi che siamo del popolo non comprendiamo. Però devo dire la verità, a Bagatta, che è grande esperto di marketing, non è sfuggita una cosa, che ha trovato una sua nicchia. Ma sei matto, Fusaro numero uno, perché non ci sono più i filosofi, lui è giovane, carino. Ma filosofo di chiere, filosofo di sto cazzo, ma anche se si è inventato un ruolo, ha trovato la nicchia, è perfetto, è l'unico filosofo, lo invitano dappertutto, ha anche una bella presenza, sì, ha fatto bingo, ma perché non bisogna dirlo? A domani, ciao Guido, grazie, ciao grazie. A tutti, a domani, ciao! Pensione Maria. A proposito, io avevo fatto quella discussione con Paco, che fine ha fatto? Ha detto che andava via dall'Italia. Io spero che sia già preparate le valigie. Eh già. Sembrava la fine del mondo. Sono ancora qua. Ok? Ma sono ancora qua. E io sono ancora qua. Eh già. Io sono ancora qua. Io bastardo che siete. La maggioranza silenziosa è compatta con Paco da Belluno. Vai, spada di fuoco. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siete proprio stronzi, guarda, proprio ve lo devo dire in faccia.